Dunque, allora, questo incontro extra della tenda con Carlo Cravero, presbitero della diocesi di Saluzzo, docente di Sacra Scrittura all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano, di cui anche direttore, si dice così, direttore. Sì. Okay. Allora, ultimo incontro di quest'anno, percorso lungo che ha visto tanti interventi, l'incontro della tenda dell'incontro Giovanni Giorgis. Tema è sempre lo stesso, le scritture ebraico-cristiane, in sostanza la Bibbia, hanno qualcosa da dire, domanda, per la nostra vita in questo nostro tempo. Ci possono offrire sprazzi di luce e di speranza di cui direi abbiamo terribilmente bisogno. Vi proporrei di iniziare questo nostro incontro con una brevissima, un frammento di una bella preghiera di Efrem il Siro, vissuto 306-373. La cita questa preghiera Papa Francesco nella sua lettera apostolica Fervit Illis, con la quale ha istituito la Domenica della Parola, che si celebra sempre verso fine gennaio, in occasione, quasi sempre in coincidenza con la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Questo frammento di preghiera dice così: chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono ad una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di quanti la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla. E poi prosegue, ma io il testo ve lo darò alla fine della mattinata, così voi potete leggerlo tutto. Va bene, allora buongiorno, mi fa piacere essere qui con voi, soprattutto per questo aspetto che, come mi aveva detto Andrea, ma poi avevo potuto leggere nella tesi di baccalaureato di Piercarlo Brunetti sulla figura di Don Giorgis, e poi dopo l'evoluzione anche del vostro percorso della tenda, anche se da un'altra diocesi la personalità di Don Giorgis era molto conosciuta, no? Poi per noi che abbiamo fatto il percorso biblico era qualcosa anche di interessante, anche se c'è molta differenza tra me e lui, ma quando avevo iniziato leggevo sempre volentieri i suoi commenti alla parola che faceva sui libretti insieme nella messa, e lo trovavo di una vivacità infinita, perché sapeva rendere il testo, ecco, in una prospettiva tipicamente profetica o sapienziale, cioè nel senso che aveva la capacità realmente di spezzare la parola con quel gusto che non è semplicemente un gusto letterario, ma potremmo dire così quasi una lettura spirituale, dove spirituale non significa devota, spirituale letta nello stesso spirito con cui questi scritti ci sono arrivati a noi. Ecco, quindi è molto interessante. Molto più problematico invece è il tema che voi mi avete chiesto di trattare insieme questa mattina, perché andare a cercare attraverso le pagine, in questa vostra piccola riflessione che avete detto, che noi diciamo essere parola di Dio, luce e speranza, in modo particolare tematizzando quelle pagine un pochino oscure, no, dove il tema della violenza emerge con una certa forza e anche con una sua certa criticità, perché un conto è la violenza che noi possiamo vedere essere operata dagli uomini, la si comprende, la si subisce, molte volte ne facciamo esperienza noi facendola, diverso è quando è il Signore addirittura a comandare di uccidere, o il Signore che diventa cattivo. aprendo anche qui una dicotomia teologica abbastanza importante. Ma il Dio dell'Antico Testamento non può essere il Dio del Nuovo Testamento. Alcune volte abbiamo sentito un po' queste espressioni, no? Che diciamo risentono più di un avvicinamento epidermico allo stato della scrittura e non invece un suo approfondimento reale, perché molte pagine dell'Antico Testamento sicuramente riversano e grondano sangue, ma anche il Nuovo Testamento. Allora, quello che diventa importante è cercare di comprendere le scritture prima di tutto nel loro contesto, cosa sono state scritte, perché solo a partire di lì che il pregiudizio con il quale noi magari oggi leggiamo questi testi incontra una risposta differente. E questo è necessario, perché la distanza che c'è tra noi e il testo è abbastanza importante. E andare alla Bibbia cercando di rispondere alle nostre tematiche attuali risulta essere un procedimento non probabilmente così corretto. Dall'altra parte, voi siete anche un gruppo molto attento al dialogo e anche mi ha stupito perché non parlate di Antico Testamento, ma parlate di Primo Testamento, che potremmo dire così, è effettivamente una recezione post-conciliare, ma che viene più dalla scuola protestante, nell'accezione dove Primo Testamento sta a dire questa testimonianza, questa alleanza che Dio sancisce con il suo popolo, che è irrevocabile. E quindi contestualizzare il Nuovo Testamento non in un percorso dall'antico al nuovo, ma questa è la vera grandezza, dal nuovo all'antico. Ma questo non risolve tutti i vostri problemi, neanche i miei, perché comunque continuano ad esserci delle pagine, diciamo, mal leggere, o comunque direi particolarmente complesse. E allora questo tentativo di dire alcune volte, ma l'Antico Testamento ci rivela un Dio così diverso da quello che Gesù poi ci ha presentato nei suoi atteggiamenti di perdono, di misericordia, di riconciliazione, con l'Imamale, con il decreto dell'Erem di Giosuè, nel libro di Giosuè, ad esempio, o meno ancora con la distruzione della terra da parte di Dio nel diluvio universale, no? Quindi restano testi che dobbiamo imparare a leggere nella loro pienezza. Facendo ancora di più, allora, e questa diventa un'attenzione fondamentale, che alcune volte queste sottolineature un pochino più marcate hanno tentato di rivestirsi anche di antisemitismo, proprio perché parlare di un Dio violento antico testamentario, distinguendolo dal Dio neotestamentario, ha aperto un processo di non fratellanza tra noi e i nostri fratelli maggiori, come vengono definiti da Giovanni Paolo II, che sono gli ebrei. Quindi dobbiamo cercare di navigare un pochino qui dentro, e quindi io vi chiedo tantissima pazienza questa mattina, ma perché? Perché per cercare di entrare dentro il vostro tema, io ho pensato di fare con voi questo percorso, che è questo. Avevo pensato di darvi lo schema, ma poi ieri tra catechismo che è iniziato, messa una cappella per l'ottavale dei morti, catechesi a Saluzzo sul Vangelo di Luca, è stata una giornata un po' piena. In ogni caso il mio lavoro sarà così. Prima, recependo la vostra domanda, che tra l'altro viene da persone che sono formate dalla scrittura, che la conoscono, farò in modo che questa vostra domanda rientri nei rivoli dell'ermeneutica, cioè come possiamo prendere una domanda che nasce da chi legge la parola e che si sente in un certo senso un pochino in preoccupazione, perché certi brani non entrano propriamente bene, e io starò in modo particolare sui brani della violenza. Poi, se volete, vi potrò far arrivare anche una bibliografia più ampia su questo tema qui. Ma una, per esempio, Perché tanta violenza, di André Ouenen, oppure un testo filosofico molto interessante di Giroux, La violenza e il sacro, dove sempre fa vedere che nel sacro c'è sempre un aspetto della violenza. Oh, quindi un primo tempo ermeneutico, che sarà poi il tempo, speriamo, dell'intervallo. Questo però a voi in realtà dovrebbe già dare le chiavi di interpretazione per risolvervi, diciamo così, alcuni interrogativi sui brani che avete nella vostra mente e che provocano sicuramente delle difficoltà, d'accordo? Seconda parte, Invece, allora entreremo più nel nostro tema e vedere come la scrittura risponde a questa questione importante della violenza, della guerra, della pace attraverso i suoi scritti. Se c'è dunque un'evoluzione teologica, se si può parlare così, molte volte a noi esegeti piace poco parlare di evoluzione teologica, oppure potremmo dire diversamente se c'è un dinamismo. Il mio compito allora dovrebbe essere quello che io vi apro alla lettura dei testi, perché voi da domani possiate essere a contatto tu per tu col testo per poterlo pregare. D'accordo? Questo è quello che fa. Ora, se durante quello che io vi racconto c'è qualcosa che non prende, perché magari non mi sono spiegato bene, non sono stato chiaro, fermatemi subito, mi fermate, mi fate la domanda, perché magari il discorso va avanti e rischia di inficiare troppo l'ascolto. D'accordo? Quindi con molta tranquillità. Inizio allora con un passo molto dolce per aprire questa nostra giornata. È stato letto il brano, io ve ne prendo uno dalla parola di Dio che secondo me tutti conoscete, ma non conoscete la conclusione di questo salmo, il salmo 137 o 136, che è il canto dell'esule, che dice così: lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo, ricordandoci di Sion. Conosciutissimo questo, Ai salici di quella terra pendemmo le nostre cetre, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. Ma come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spogliatela, spogliatela fino alle sue fondamenta, figlia di Babilonia devastatrice. Beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Rispondete pure con tanta fede, parola di Dio. Vedete che questo testo direi che è emozionante, però vi siete anche accorti che noi nella liturgia, nella preghiera personale, nel breviario, l'ultima parte l'abbiamo espunta. È interessante, no? Questa parte qui dove si prendono i bambini, li si sfracellano sulla pietra, ricordando però, sapete, un rituale che era tipico nella città di Sparta. I bambini non voluti si buttavano via, così. O anche i bambini piccoli dei nemici si battevano in questo modo. Diremmo, va bene? Va bene per il contesto, no? Del tempo? Direi, non va tanto bene se io quando leggo questa parola dico che questa parola è parola di Dio. Noi siamo quelli del perdono, d'accordo? Della bandiera della pace sulla schiena, no? Quindi questi testi non ci stanno. Però dobbiamo anche vincere, probabilmente, e questo è un aspetto importante, un pregiudizio che è dentro di noi. Siamo così convinti che soltanto l'Antico Testamento presenti dei passi controversi? Michel de Montaigne dice questo aforisma: niente imprime una cosa così intensamente nella memoria quanto il desiderio di dimenticarla. Niente imprime una cosa così intensamente nella memoria quanto il desiderio di dimenticarla. Proviamo a pensare alla violenza. Alla violenza sui bambini, alla violenza sulle donne, poi in questo periodo sentiamo parlare di questo. Bambini massacrati sono meno importanti di qualche proiettile che va all'UNIFIL a Beirut, ma i bambini massacrati a Gaza non contano, quello non è un crimine dell'umanità. Oppure esperienze nostre di violenze subite, di torti che abbiamo dovuto digerire, quanto è difficile dimenticare. E noi, e rientriamo in questo aforisma, ci accorgiamo che ciò che noi vogliamo dimenticare con tanta forza, in realtà è impresso nella nostra mente. E allora torniamo al nostro tema, il tema della violenza. È semplice dimenticare una violenza subita? Pensate alla figlia Dina di Giacobbe che viene violentata. Pensiamo a questo racconto interessante della concubina del sacerdote betlemmita nel libro dei Giudici, che scappa da suo marito perché non riusciva a stare con lui. Il marito torna a prenderla, a raccoglierla, e poi quando vengono ospitati nella città di Gaba, questa donna soffre una violenza sessuale prolungata e continuata per tutta la notte da parte degli ospiti, e il marito al mattino la prende e, sentendosi lui vittima di disonore, la smembra in 12 parti. Direi che anche lì, quando leggiamo parola di Dio, abbiamo qualche perplessità. Oppure vi chiedo questa: ma la violenza che Amon compie nei confronti di sua sorella, fingendosi mezzo malatino, e voleva le cure della sorella che si avvicinasse, le fa violenza sessuale. Ma potremmo parlare della violenza di Caino e Abele, della fratellanza non riuscita tra Giuseppe e i suoi fratelli. Vedete, sono forme di violenza gravi. Siamo entrati nella dinamica dell'erem, no? Del bando, della distruzione di massa, dello sterminio di massa che Dio ordina a Giosuè di compiere nell'ingresso della terra promessa. Nel libro dei Giudici, Jefte, che sacrifica la propria figlia senza nome, dicendo per un voto scellerato a Dio, Giudici 11, il primo che uscirà dalla porta di casa mia sarà per il Signore, quando il Signore non ha chiesto niente. Pensate al sangue dei Maccabei, quanto sangue c'è in questa letteratura. Vogliamo parlare del libro dell'Esodo, dei primogeniti che vengono uccisi innocentemente nelle famiglie degli egiziani? Ancora questo salmo che vi ho letto, ma entriamo anche nella parte un po' più sensibile di oggi anche, no? Questi riti animali al tempio, questi sacrifici enormi di montoni, tori, giovenchi, quanto sangue che scorre per celebrare una liturgia. Oppure, se nell'Antico Testamento noi abbiamo 46 libri, sapete che di questi 46 libri ne abbiamo soltanto uno dove non scorre sangue, che è il Cantico dei Cantici. In tutti gli altri, diciamo, un po' di emocromo salta sempre fuori. Quindi tranquilli, perché c'è sempre un pochino di sangue. Ma siamo anche sicuri che l'Antico Testamento sia questo? Non abbiamo delle pagine di bontà di Dio che non troviamo, per esempio, nel Nuovo Testamento? Vi faccio degli esempi. Ma il perdono che Giuseppe accorda ai propri fratelli non vi sembra tanto? Nella sua frase interpretativa della sua vicenda, nel ciclo letterario di Giuseppe, nel libro di Genesi, da Genesi 37 a Genesi 49, Giuseppe è molto chiaro nel dire quello che Dio aveva, quello che voi avevate pensato per essere un male, Dio lo ha trasformato in bene. Scusate, Ismaele, quando viene abbandonato da Abramo nel deserto con sua mamma Agar, una scena, vedete, tremenda, bruttissima, A me ogni tanto fa pensare a quella mamma in Sicilia che era partita con la macchina e poi probabilmente si è tolta la vita vedendo morire il proprio bambino mangiato dagli animali della foresta, no? Guardate, invece, nell'Antico Testamento Dio vede Agar che si lascia morire di sete perché non vuole vedere morire il suo bambino. E Dio ascolta nel deserto questo bambino che piange. Ma questa è di una tenerezza infinita. Dio ascolta questo bambino che naviga su una cesta sul fiume Nilo per essere accolto nelle mani della figlia del faraone. La figlia del faraone che ha respirato violenza per anni all'interno di un padre che voleva lo sterminio di massa degli ebrei. Lei non ha respirato quell'aria, ma ha deciso di vivere in modo diverso, accogliendo appunto un figlio degli ebrei. Potremmo ancora andare avanti. Osea 11, Dio che si rivela a noi come quel Dio che ci insegna a camminare, che ci prende per mano, che ci dona un bacio portandoci alla guancia sua. Queste sono delle immagini interessanti. O anche il tentativo di Dio di fermare la violenza su Caino mettendogli il timbro sulla testa. Nessuno tocchi Caino. Chi toccherà Caino subirà la vendetta di 7 volte. Primo tentativo di fermare la violenza. Vedete che allora, secondo me, passi di bontà anche nell'Antico Testamento possiamo trovarli. E quindi forse la questione non è dire che nell'Antico Testamento ci sono pagine di violenza cruenta efferata che mal si sposano col testo, no, potremmo dire la scrittura ci presenta anche pagine di efferata violenza in mezzo ad una storia di amore di Dio verso il suo popolo. Allora forse il modo migliore per comprendere è dire: ma io, alla luce di questa azione rivelativa di Dio che nelle benedizioni del libro del Deuteronomio riveste il carattere della misericordia, addirittura Abramo storna l'ira di Dio molte volte, così farà Mosè. Ecco, come andiamo a leggere queste pagine che effettivamente vengono a urtare anche la nostra sensibilità? Vedete che comincia già a cambiare un po' il profilo, perché noi allora dobbiamo leggere il nostro testo in una concezione globale del testo, non semplicemente in una punta. Ecco perché c'è questo, alcune volte si dice così: ognuno ha il suo punto di vista con cui affrontare un problema, senz'altro, però il punto di vista con cui uno inizia il proprio studio parte come in comunque sempre da soltanto un punto. E se tu parti solamente da un punto, perdi di vista la globalità. Allora, un conto è studiare con un approccio dice una via, può essere la via liberazionista, la via femminista, altre forme, ci possono essere dei metodi di lettura. Capite che allora il pregiudizio è molto diverso dall'approccio, perché il pregiudizio tiene conto solo del punto di vista, che è una partenza da un punto. Invece lo studioso attento che cosa fa? Lo studioso attento si accorge che il testo presenta, potremmo dire così, delle sgrammaticature abbastanza importanti e potremmo dire ogni tanto che ci feriscono, è quello di restituire queste pagine all'interno della complessità del libro. Solo così si possono leggere, d'accordo? Solo in questo modo. Ma poi vorrei anche dirvi così: siete anche così tanto sicuri che Gesù non sia stato cattivo? Nel senso, che Gesù non sia stato duro? Gesù direi che è stato durissimo nei confronti del male. Se no avrebbe lasciato parlare tutti gli indemoniati, non avrebbe guarito nessuno. Vedete che Gesù agisce con forza, ma non da violento. Anche quel brano un po' interlocutorio, no? Della purificazione del Tempio, no? Ma non è che Gesù sia andato al mercato di Mondovì, di Cuneo, di Saluzzo, abbia tirato fuori tutte le bancarelle, se no veramente finiva dentro, No, è un'azione profetica che vuole dire qualche cosa in più. Ma Gesù è stato violento nelle sue azioni, nel senso che non ha lasciato parlare il male. Vedete, c'è una violenza che è necessaria. Dire no al male. Faccio degli esempi di contemporaneità. Seguendo alcune volte alcuni amici nella comunità Cenacolo di Suor Elvira, vi posso dire, è violento dire adesso basta. Adesso non ti fai più la striscia e non rimani un po' più in là, o non ti fumi una gomma. È violenza? Certo, ma è una violenza propedeutica. Quindi il riscoprire che la vita deve passare attraverso azioni violente di cesura verso ciò che ci fa del male, questa è la propedeutica di Dio, annullando il peccato. Noi dobbiamo capire però, cioè, capite, un conto è questo, un conto se Dio mi ordina la guerra santa. Va bene? Però dobbiamo mettere insieme tanti pezzi. Ultimo, a sguardo così, potremmo dire così, un po' contraddittorio, sui pregiudizi è questo. Ma Gesù anche è anche stato violento, perché Gesù ha ucciso la morte. Questa è una grande violenza. Gesù ha ucciso la sua morte diventando lui stesso vittima. Però vedete, se Gesù non avesse accettato, consegnandosi al Padre, di uccidere la morte, non ci sarebbe stata la redenzione e la liberazione. E quindi, allora noi abbiamo bisogno di questo sguardo interessante sulla scrittura, no? Proprio perché il nostro sguardo non sia, diciamo, parziale, o potremmo, più che parziale, potremmo dire un po' ogni tanto minimale, epidermico, no? Per aprirci invece a qualche cosa che gusta e nutre la nostra vita. Quindi, dopo questa premessa, arriviamo al primo punto, alla questione preliminare, e prendo alcuni riferimenti da alcune lezioni che avevo seguito da Alonso Schöckel, no? Grande biblista, quando aveva fatto queste lezioni a San Paolo in Brasile, dove mi trovavo, e poi dopo le avevo ancora sentite a Madrid. E lui ci diceva così, per stimolarci un po' anche nella lettura, perché aveva capito che non si leggeva la Bibbia, no? Aveva preso un testo, Atti 8, 30, 31. Capisci quello che stai leggendo? Quello gli rispose, e come lo potrei se nessuno mi istruisce? Qui siamo all'interno di Atti 8, quando Filippo cerca di incontrare l'eunuco della regina Candace. Questo poverino sta leggendo anche un passo, direi, particolarmente difficile dell'Antico Testamento, è il quarto cantico del servo, e dice: ma chi è quest'uomo di cui sto parlando? Potremmo dire, la gentilezza di Filippo non è, ecco, esemplare. Capisci ciò che stai leggendo? Ecco, nessuno di noi si avvicinerebbe a nessuno dicendo così. Però Schöckel ci diceva così: la questione è questa. È difficile leggere la Bibbia? Sì, leggere la Bibbia è difficile. E allora, e come lo potrei capire se nessuno mi istruisce? Ecco il nostro compito. Il nostro compito è quello: passare attraverso lo sforzo di testi veramente incomprensibili, difficili, ma in che modo? Leggendoli insieme, perché possano essere spiegati. E allora, solo così possono parlare. E allora ecco che Schöckel poi ci stuzzicava su molte cose dicendo: guardate che voi avete la fortuna di poter leggere la scrittura, mentre nel passato la scrittura non veniva letta. Non era possibile, anche il Concilio Tridentino lo sappiamo, la scrittura era solo per qualcuno. Sarà poi Benedetto XIV che darà qualche chance in più, allora ecco che la parola veniva ascoltata. Ascoltata nelle liturgie, ascoltata nella preghiera. Però c'è una difficoltà maggiore nel leggere la scrittura, che è questa. Molte volte abbiamo sì un pregiudizio, non noi, voi siete troppo bravi, ma c'è un altro pregiudizio, che è quello nel racchiudere la scrittura semplicemente nel rango delle persone credenti. E quindi la scrittura va bene per quei cristiani che sono credenti, che sono bravi, però agli occhi dell'umanità il nostro testo rischia di essere particolarmente noioso, non accattivante e che non dice più nulla. Noi da un lato abbiamo paura di aprirlo così tanto, perché questo testo sacro non lo rendiamo più inaccessibile, perdiamo il suo carattere di parola di Dio, perché lo confondiamo insieme alle tante letterature che sono presenti in mezzo a noi. Ecco, nulla di più sbagliato, perché il riconoscere che questo nostro testo è un testo letterario, storico, che si è formato nel tempo, che dunque risente di generi letterari, di abilità di scrittura, di capacità filologiche, di semiotica, di grammatica, di letteratura, di lingua originale, toglie qualche cosa alla parola di Dio? Nulla. Anzi, se io allora entro nella dinamica di questi studi, posso veramente comprendere questo testo e non compiere l'errore di Marcione, ecco che ritorna all'argomento dell'origine, che invece proponeva della Bibbia una lettura semplicemente letterale. Allora, una lettura letterale porterà sicuramente a rendere inaccettabile il Dio dell'Antico Testamento, pari ad un demiurgo che mi crea questo mondo, un mondo particolarmente cattivo, dove allora io dovrò demitizzare anche la persona di Cristo, avendo solo più come riferimento forse il Vangelo di Luca, dove Gesù, ecco, mi dimostra un Dio completamente diverso. Allora noi diciamo, primo passo, è difficile leggere la Bibbia? Sicuramente sì, Allora Alonso Schecker ci dice così: non è difficile leggere la Bibbia, ma è difficile saper leggere la Bibbia. Perché? Saper leggere la Bibbia ci dice che allora serve un'arte letteraria, serve un'arte di lettura, dobbiamo superare anche alcuni ostacoli che sono proprio nostri, della nostra umanità attuale, prima di tutto la fretta con la quale si può leggere la scrittura. Oppure il fatto che la parola di Dio va letta, ma noi siamo persone dell'immagine adesso, non della lettura. Potremmo dire un passaggio diverso ancora: noi oggi leggiamo la scrittura, ma nel passato la scrittura era ascoltata. Potreste fare anche un esempio che penso che sia propedeutico per un maggiore avvicinamento alla scrittura, che è questo: abituarsi ad ascoltare il testo senza leggerlo ti impegna molto di più, perché ti impegna nella concentrazione, ti impegna nella ricezione, nell'ascolto, e solamente ascoltando questo testo io sono obbligato a spegnere tutto quello che c'è intorno a me, che sono cosa ho fatto prima, cosa ho fatto ieri, cosa dovrò fare, perché mi fa concentrare su quelle parole, e quelle parole mi possono sembrare nuove. Quindi una prima volta lo ascolto, poi lo leggo per poi riascoltarlo. Questo è ritornare, potremmo dire, quasi nel processo originario con cui queste scritture sono state scritte. Allora, questo permetterà, nell'arte del saper leggere la Bibbia, sempre di fare attenzione ad un altro aspetto, che sono l'aspetto dei generi letterali. Quindi, prendendo il Salmo che vi ho preso prima, direi spaventoso, d'accordo? Sui fiumi di Babilonia, là si levavamo piangendo al ricordo di Sion, fino qui tutto bene. Anche Verdi si è ispirato per il suo Nabucco ed era tutto bello, tutto carino. L'ultima parte, figlia di Babilonia devastatrice, figli di Edom, beato chi ti sfracellerà contro la pietra. Che cos'è questo? È una poesia. Sapete che il discorso, il farsi della poetica, ha un'argomentazione e un suo movimento retorico diverso, che è proprio l'ars poetica, dove allora le immagini non corrispondono alla realtà. Quindi bisogna passare attraverso il simbolismo per comprendere quello che viene detto. Quindi c'è un genere che va compreso. Ma quando siamo nei generi racconto invece, quando siamo invece nei generi appunto dei libri storici, vi ho detto Giosuè, ma vi potrei dire tranquillissimamente il libro dei Maccabei. Questi figli che vengono uccisi dalla madre, 7 figli, che donano la vita per il Signore, vengono uccisi in modo cruento, vittime. E tutti quelli che fanno i Maccabei, sgozzandone di qua, di là, a destra e a sinistra, non fermandosi una volta che hanno costruito il Tempio, convinti di lavorare per lo zelo della casa del Signore, e quindi noi oggi diremo fare una guerra santa. Capite che se allora i nostri testi non vengono intesi nel loro contesto relazionale, storico e culturale, questi testi possono dire di tutto. Anche il Salmo 13 dice Dio non esiste. E allora avremo finito ogni nostra ricerca. Però bisogna andare a fondo nella lettura. Noi dobbiamo crescere nella lettura di questi testi insieme appunto con i nostri testi stessi. Spaventa, sì, potremmo dire l'edificio, che è la parola, ma spaventa anche l'impalcatura, perché noi non possiamo leggere questi libri senza un'impalcatura, cioè senza un metodo, e non possiamo allo stesso tempo essere spaventati da un metodo, perché altrimenti rimaniamo bloccati, noi non leggeremo mai i testi a nostra disposizione. E allora, è difficile leggere la Bibbia? Sì. È difficile saper leggere la Bibbia? Sì. Qual è il nostro compito? Beh, il nostro compito è questo: quando termina la spiegazione, inizia davvero la lettura, perché ognuno di noi possa essere a tu per tu con il testo, cioè fare in modo che il testo parli. Per utilizzare un altro esempio potremmo dire così: hai paura di nuotare? Sì, certo, ma non impari a nuotare guardando un video su YouTube su come si nuota. Devo prenderti, buttarti nel mare e in bocca al lupo, naturalmente standoti vicino. Capite? I testi anche molto difficili della scrittura si comprendono solamente nuotando, cioè solamente entrando dentro, mai dal di fuori. Dal di fuori, potremmo dire, sono particolarmente spigolosi. Quindi entriamo in una seconda parte, sempre di Schöckel, che ci dice così: ma siamo sicuri che la scrittura sia sempre stata utilizzata in modo corretto, cioè che ci sia stato un uso buono, ma non c'è stato anche un abuso della scrittura? E rimaniamo dentro al nostro tema, vi direi proprio di sì. Immaginate quando nel 1000 si iniziano le crociate e la parola di Dio diventa, potremmo dire così, la radice per cui si inizia la guerra di liberazione del Santo Sepolcro. Quindi la parola di Dio è stata, potremmo dire così, abbastanza distorta e manipolata. Poi noi oggi dobbiamo operare un revisionismo storico abbastanza necessario su quelle che sono state le crociate, ma noi dobbiamo anche riconoscere che ci può essere stato un abuso di questa scrittura. Oppure un altro esempio interessante riguarda la Chiesa dell'Irlanda nel momento in cui si forma, quando San Patrizio, in un contesto in cui non esisteva un codice di diritto, utilizza come codice di diritto appunto il codice mosaico, applicandolo dall'inizio alla fine. E allora formula questo liber, il liber ex lege Moisis, che contiene precetti morali tratti dall'Esodo, dal Numero, dai Levitico e dal Deuteronomio. Questo codice, così chiamato Ibernense, contiene circa 500 citazioni bibliche citate tranquillamente come legge, no? Quindi creando, vedete, un impatto letterario, no? È una lettura anche troppo letterale del testo. Oppure quando avviene la trasformazione nella lettura della scrittura in termini di un'interpretazione semplicemente moralista, dove allora la scrittura indica solo ciò che si può fare o ciò che non si può fare. Oppure in altri contesti, qui siamo nella casa du menor, alcune volte anche l'uso positivo della teologia liberazionista nel comprendere che il regno dei cieli è da attuare qui, ora, adesso, sulla nostra terra, e allora far sì che il messaggio dei profeti di creare giustizia verso i poveri, ecco, impegni realmente la Chiesa nel suo processo di determinazione nell'annuncio del Vangelo e non leggerlo semplicemente in chiave morale. Vedete che allora abbiamo esempi positivi e abbiamo esempi molto più complessi. Detto questo, allora vediamo che per leggere la scrittura noi abbiamo bisogno di una forma, abbiamo bisogno di una profezia, abbiamo bisogno anche di un simbolo, o meglio così, di una figura fondamentale. Questo è per dirci in che stanza, ecco, noi dobbiamo entrare da un punto di vista ermeneutico per porci quando leggiamo la scrittura. D'accordo? Fino qua detto acqua dolce, d'accordo? E fino qua semplice. Quest'ultima cosa, abbiamo sì. Bisogno di una forma, di una profezia, di un simbolo. E una figura, simbolo, per leggere, cioè nel senso noi non possiamo fermarci ad un unico livello della scrittura. La Dei Verbum, ed è qui che prendo queste parole, la Dei Verbum ci dice che noi abbiamo bisogno di andare ai testi, sicuramente, ma questi testi non hanno per noi un carattere museale, semplicemente, no? O semplicemente di una bella letteratura che possiamo... Questi testi sono parlanti. Quindi l'interpretazione che noi dobbiamo dare, un'interpretazione profetica, no? Cioè che definisca un outlook credente, che mi dia un orizzonte. Ma è difficile trovare questo orizzonte se non so orientarmi all'interno di questo infinito simbolismo. D'accordo? Un altro testo che all'inizio non vi ho citato, però era interessante, riguarda anche il libro dell'Apocalisse, cari miei. nell'Apocalisse c'è abbastanza guerra, però l'aspetto interessante è questo, che Dio utilizza quella guerra per fare che cosa? Per far sì che quella guerra venga distrutta, e allora le armi si spengano nel braciere grande per fare vedere che la rivelazione sarà un mondo senza guerra. Dimmi qua. Volevo fare una riflessione su questo aspetto, leggere e ascoltare le scritture, che in effetti ascoltare non è come leggere. Cioè io ho sperimentato quando lavoravo a Roma, alla sera avevo la possibilità di fare un po' quello che volevo, sono andato alcune volte in una chiesa, non mi ricordo più quale, dove il parroco, chi per essa, organizzavano delle letture continue di testi, mi ricordo per esempio Marco, letti da un attore, quindi letti bene. Bene. Ecco, venivo fuori da questa esperienza molto, cioè mi piaceva molto, una cosa è ascoltare, una cosa è leggere, mi sembrava che una cosa, cioè è vero la differenza tra leggere e ascoltare. Sì. E però un po' di anni fa, quando c'era stato Benedetto XVI, ci aveva detto di organizzare la lettura continua del Vangelo, di tutto Paolo. Sì, anche qua. Ah, Paolo. Poi quando è uscita la Bibbia nuova l'hanno fatta passare tutta. Ecco. Anche lì mi ricordo che l'avevamo organizzata in parrocchia ed era stata una cosa abbastanza interessante questa lettura continua di tutto. Sì, perché io le dico, fa un effetto diverso. Io purtroppo per deformazione non posso, quando sento le letture, non essere preparato su quello che andrò a dire. Però ogni tanto cerco degli stratagemmi che mi aiutano tantissimo, no? Quando la mia gente che va a leggere alla messa, no? Cerco veramente di isolarmi per non sentire il passo da cui si inizia, per fare lo sforzo mentre questa persona legge di capire in quale libro biblico mi sto trovando. O se sento il salmo responsoriale, capire se sono nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto libro. Perché questo stimola il mio ascolto, perché mi fa in modo che io nell'ascolto della parola non rimanga così, no? E risponda con un versetto che non è parola di Dio e che questi qui nuovi sono indigeribili, no? Oppure se ascolto un Vangelo, quando vado a leggerlo io no, ma quando lo sento faccio lo sforzo proprio solo di ascoltarlo, oppure con le nuove app, ogni tanto ascoltarmi parola di Dio. E mi accorgo che la testa non segue tutto, perché mentre lo ascolti, come quando vai in giro un po' così, la testa, però le direi così, noi avremo bisogno di recuperare questo aspetto, perché è vero, noi oggi abbiamo il testo scritto, noi lo leggiamo, ma la Bibbia a noi è arrivata come racconto, si è poi formalizzata in uno scritto, ma la parola è annunciata, e recuperare questo dovrebbe risvegliare in noi il senso dell'ascolto, che è diverso dal senso della lettura. La lettura che cosa mi farà fare? Mi farà sottolineare una parola, verificare un verbo, controllare una nota, ma vede che è già diverso, perché questo è studio, ma non è ascolto. Si può provare. Va bene. Tra l'altro non bisogna trascurare il fatto che nei primi secoli ancora del cristianesimo la lettura era lettura ad alta voce. Certo. Quindi anche colui che leggeva privatamente la scrittura, la pregava, la leggeva in realtà ad alta voce. Cioè la lettura silenziosa è una cosa, diciamo, non moderna, ma diciamo che nasce, credo, un po'. Sì. Seguire il basso medioevo, forse. Nei monasteri. Nei monasteri, eccetera. Certo. Io volevo dire una cosa, sono straniera, magari sbaglio, non metto parte. Per capire il senso vero della parola di Dio, della bio, dell'interpretazione, cioè come si fa a capirlo tutti nello stesso modo, perché io lo interpreto in un modo, magari l'altro in un altro, e ci, nella stessa lettura ci troviamo contraddittori. Cioè sono punti di vista, ma sarebbe sempre uno, quello che ha detto prima. No. Dove parti? Ah, ho capito, sì. Dovremmo dire diversamente. La parola è una. La parola che ascoltiamo è sempre quella. E in questa stanza qui potremo leggere il Vangelo di domani, della domenica. La differenza è come quella parola risuona dentro di lei. Come sono fatta io. Esatto. Nostro compito di chi si avvicina alla parola di Dio qual è? È fare in modo che, togliendo quelle distanze che ci sono tra noi e il testo, e questo lo fa appunto lo studio, io vi metta nelle condizioni di stare a tu per tu con il testo con due semplicissime domande. Che cosa dice la parola? Ed è lo studio che lo tira fuori. E sarà poi dopo, nella preghiera, che verrà fuori la domanda fondamentale. Che cosa mi dice? Questo cambia. Perché questo cambia dalla sua vita, dalla sua condizione, dal suo momento, cambia magari dalla mia o cambia da qui dentro. Vedi che allora la parola è sempre ricca, ma la parola è una. Non diverge nell'interpretazione, diverge nell'attualizzazione, che sono cose diverse. L'attualizzare la parola è una cosa, l'interpretarla è un'altra. D'accordo? Questo è il percorso. Non è così semplice, perché poi carattere interpretativo della parola è enorme, Noi non possiamo prendere tutta la Bibbia, però magari rimanendo su una pericope un pochino più stretta si riesce davvero, no, a sviscerare, no, i sensi di questa parola, ma questa parola deve essere restituita alla preghiera. Questo è quello che a noi serve. No, questo è quello che per noi è fondamentale. Non mi è tanto chiaro, però cercherò di capirla. Beh, poco per volta la parola diventa chiara nel momento in cui io mi avvicino a lei, non mi allontano. No, sì, certo. Però se interpretiamo in modi diversi, per quello succede anche la guerra. Ah, beh, certo. Anche in famiglia, anche fuori, anche con le persone, che magari un malinteso crea un... Bravissima, problema. Bravissima. E questo che Schöckel però ha proprio detto. Che magari una persona brava, lui o lei, o io anche, però... Sì. Schöckel aveva proprio detto così, eh? È difficile leggere la Bibbia, è difficile saperlo leggere. È difficile anche saperlo. Ma prendiamo un esempio dalla scrittura, così è più semplice. Se fosse stato così semplice leggere la scrittura, come mai i dottori della legge che erano alla casa di Erode non hanno letto la profezia di Michea che Gesù sarebbe nato a Betlemme e sono arrivati a Betlemme invece i re magi e i pastori e non i dottori della legge? Segno evidentemente che non c'è una lettura incontrovertibile della parola, che la parola va indagata, che la parola va studiata. Vedete, questo è il processo. Ora iniziamo il secondo momento, potremmo dire così, che ci aiuta ad entrare nel tema. E allora ha una prima parte di carattere storico che poi si concluderà con una parte squisitamente biblica. Il titolo è questo: lo scandalo di un Dio forte. Primo e Nuovo Testamento, due punti. Lo stesso padre? Seconda possibilità di titolo. Primo e Nuovo Testamento, lo stesso padre. In uno mettiamo il punto interrogativo, in un altro mettiamo il punto esclamativo. Allora noi andiamo a vedere da che parte metterci, e qui abbiamo bisogno di fare un percorso storico. Che ci dice questo? A partire dalla fine del primo secolo, le comunità cristiane cominciano a guardare ai testi di quella che per loro è la scrittura e a interrogarsi con una convinzione di fondo. La Chiesa delle origini ha questa convinzione di fondo, che cioè le scritture conducono a Cristo. Le scritture conducono a Cristo. Cioè i cristiani dell'origine non sono fatti nessunissimo tipo di problema nel ricevere dal mondo ebraico la Tanakh ebraica, cioè lo scritto, ecco quello che noi chiamiamo la Bibbia, legge, Torah, legge, profeti e scritti. L'hanno recepito senza difficoltà. Perché? Perché per loro che cosa era chiara? Era chiara che le scritture conducessero a Cristo. Poi potremmo dialogare, ma qui perderemo il nostro tempo, nella concezione di canone presente nel primo secolo dopo Cristo, se il canone della Chiesa ebraica, se il canone ebraico, oppure se il canone della 70 che entra prossimamente, oppure la volgarizzazione del canone con la lingua latina. Questo non interessa più. Però quello che è chiaro è questo, è convinzione che si trova già espressa anche nei testi del Nuovo Testamento. Si potrebbe sostenere così che il Nuovo Testamento non è altro che una rilettura di Gesù Cristo sullo sfondo delle scritture di Israele. Signore, qui avreste dovuto spararmi per quello che vi ho detto. Perché? Io ve lo ridico. Il Nuovo Testamento non è altro che una rilettura di Gesù Cristo sullo sfondo delle scritture di Israele. Ma ditemi un po', che cosa vuol dire sullo sfondo? Cioè, io come mi avvicino all'Antico Testamento? L'Antico Testamento diventa semplicemente un dato preistorico sulla vita di Gesù, no? Importante fino alla venuta di Gesù, ma poi da eliminare, quindi anche questo riferimento al Dio cattivissimo lo perdiamo in un amen. E semplicemente lo sfondo culturale nel quale leggere Gesù, per cui mi è importante, perché senza alcuni elementi del giudaismo, dell'ebraismo, del tempio, della vita, non riuscirei a interpretare Gesù. Potrebbe essere storico lo sfondo su Gesù, cioè dove piazzo la persona di Gesù nel suo contesto. Vedete? Tante cose avrei voluto dire. Io invece vi ho detto una cosa diversa, che le scritture portano a Cristo. Questa è la convinzione dei cristiani del primo secolo. Provate a togliere dal Vangelo di Matteo le citazioni dell'Antico Testamento. Che cosa resta? Poco. Il discorso delle antinomie. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico, togliete queste parti, resterebbe l'Antico Testamento? No, ma non avremo neanche il Nuovo. La Chiesa dell'origine ha fatto ben attenzione nella sua Bibbia a porre il Nuovo Testamento dopo l'Antico Testamento e non prima. Ancora, sullo sfondo delle Sacre Scritture non ci vorrà dire allora che Gesù si fa conoscere, e lo puoi conoscere, come dice Girolamo, solamente conoscendo l'Antico Testamento, perché l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Quindi, come si presenta Gesù ai suoi abitanti di Nazareth? Isaia 61, lo Spirito del Signore è sopra di me, perché il Signore mi ha mandato ad annunciare, Quindi vedete che il movimento non è dall'Antico al Nuovo, ma dal Nuovo all'Antico. L'Antico Testamento non diventa l'oroscopo sulla vita di Gesù, d'accordo? Ma l'Antico Testamento diventa quel fondamento attraverso il quale noi possiamo ricevere la persona di Gesù, rivelatore del Padre. Quindi la questione non è fare una teologia dell'Antico e del Nuovo Testamento. La questione è risolvere insieme tra l'Antico e il Nuovo Testamento un discorso teologico su Dio, che vede nella svolta di Gesù di Nazareth il compimento di questa rivelazione. Quindi Gesù che cosa fa quando compie la scrittura? Queste parole, come dico, sono molto complesse perché in italiano non rendono quanto il greco, però Gesù compie la scrittura, ma vuol dire che la scrittura era profetica sulla forma di Gesù? Sì, sicuramente, ma la scrittura diceva quello che doveva fare Gesù in che senso? Isaia 7. La Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Matteo utilizza questo versetto, Matteo 1,11, per parlarci della nascita di Gesù. Benissimo, ma a Betlemme come chiamano questo bambino? Gesù. Allora, o non ci ha preso Isaia, oppure Maria e Giuseppe, oddio, sulle scritture un po' scarsetti, perché quel bambino dovevano chiamarmelo Emanuele. Si legge così coi piedi la scrittura? No, perché evidentemente c'è il carattere fondamentale della veritas ebraica che noi dobbiamo continuare a leggere, se vogliamo dirlo. Ho detto veritas ebraica e non ho detto Primo Testamento, perché mi sono portato molto più avanti. Secondo me la dicitura Primo Testamento risulta essere ancora un po' deficitaria, anche se scritta con la P maiuscola. Non dimentichiamoci che noi abbiamo ricevuto i testi da una concezione, da una religione che ha fatto di questi testi il punto rivelativo, dove Dio si rivela in una storia di salvezza e questo popolo incontra e si riconosce come il popolo eletto. Quindi quando noi leggiamo questi testi dobbiamo avvicinarci con estrema cautela ai testi che per noi sono che cosa? Non il background culturale, non il fondo storico, ma sono il fondo teologico per comprendere l'azione di Gesù. E allora che cosa ha fatto Gesù? Gesù è molto bello, perché Gesù ha imparato, scusate la tautologia, Gesù ha imparato ad essere Gesù leggendo che cosa? Non poteva leggere il Nuovo Testamento, ma ha letto solo l'Antico Testamento. Vedete, Gesù ha imparato ad essere il Cristo in tante forme. Ecco che noi lo troviamo in preghiera, lo troviamo in mezzo alla gente, lo troviamo a compiere miracoli, ma lo troviamo a commentare la scrittura. Questo è eccezionale. Perché vuol dire che compiere la scrittura significa allora che Gesù agisce come la scrittura ha detto, ma ha detto di lui o la scrittura ha detto come rivelazione divina? Vedete che cambia? Potremmo dire così, è una deviazione molto breve, molto fine nella strada da prendere, ma se la prendi sbagliata vai da tutta un'altra direzione. Quindi Gesù che dice lo Spirito del Signore su di me e poi compie questo servizio, no? Bellissimo. Oppure Gesù che sulla croce utilizza il Salmo per pregare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma noi sappiamo che Gesù l'avrà detto tutto. E questo testo come si conclude? Ecce opus Dei, ecco l'opera di Dio. Cioè, l'opera di Dio è questa, il Cristo che dona la vita per noi. No? Allora, in questa forma, ecco che la Chiesa dell'origine è stata interessante. Noi abbiamo un brano particolarmente eloquente su questo, che voi conoscete molto bene, è il capitolo 24 del Vangelo di Luca, dove in entrambi gli episodi, prima Gesù con le donne, poi i suoi discepoli, poi sui discepoli di Emmaus, risulta questa idea fondamentale. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, il risorto spiegò loro, ai discepoli di Emmaus, in tutte le scritture ciò che si riferiva di lui. Qui è preciso, Luca, perché ve lo rileggo. Cominciando da Mosè e dai profeti, quindi gli avrà fatto uno spiegone, signori, disumano, perché è abbastanza lungo qua, spiegò loro ciò che si riferiva a lui in tutte le scritture. Gesù a questi due poveri discepoli di Emmaus non gli ha fatto un'esegesi, gli ha permesso invece un'interpretazione attualizzante di quelle scritture nella vita di Gesù, e ha fatto vedere che Gesù nella sua vita che cosa ha fatto? Ha fatto brillare quella scrittura. Vedete che cambia il nostro punto di vista. Non è il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento che farà brillare il Nuovo, perché è con la nuova luce, ma è proprio l'attività di Gesù che, spiegandoci le scritture, ci fa vedere come lui è stato atteso e sperato nell'Antico Testamento. Capite che non sto assolutamente plagiando un testo, che non sto plagiando la Tanakh ebraica. La sto leggendo, però, nell'interpretazione credente, secondo cui le scritture puntano a Cristo. E quindi, certamente, solamente a questo punto io posso dire che la scrittura antico testamentaria ha questo carattere profetico su Gesù. Dove profetico, avete capito, non significa la predeterminazione su Gesù, una preconoscenza su di lui, ma significa profaino, parlare prima, parlare davanti. Il profeta è colui che annuncia una parola. Dunque, la parola mi annuncia questa bellissima venuta che è la venuta di Gesù. No? Quindi, questo è in Luca 15, in Luca 24, oppure quando i discepoli tornano e dicono: sono queste le parole che vi dissi quando ero ancora tra voi, bisogna che compiano tutte le cose scritte su di me nella legge, nei profeti e nei salmi. Amici miei, legge, profeti e salmi, che cos'è? Questa è la Bibbia ebraica. Chiamiamola bene, questo è il Tanakh. Quindi Gesù interpreta se stesso non attraverso un'esegesi, ma un'attualizzazione interpretativa, sì, della sua persona. Per cui, quando Luca riferisce le parole di Gesù, ci intende dire che Gesù è colui verso il quale si orientano le scritture. E lui la chiave di lettura delle scritture di Israele. Questo è il principio da cui partire. Perché insisto su questo? Insisto su questo perché? Perché poi andiamo a vedere. Se la nostra preoccupazione è andare a verificare se il Dio di Israele è cattivo più del Dio del Nuovo Testamento, capite che allora l'approccio iniziale era sbagliato. Perché? Perché la nostra lettura della scrittura punta a Cristo, ma Cristo punta alla lettura della scrittura interpretando l'Antico Testamento. Quindi io ho necessità di non dimenticare mai questo, che quando mi avvicino anche al brano più cruento, io so che questo brano va letto in un contesto ampio che mi porterà sicuramente a una lettura cristologica. E non ho perso assolutamente il carattere ebraico del testo. D'accordo? Questo, guardate, che diventa fondamentale. Per cui il principio per il quale, dal quale si parte, è che tutte le scritture sono orientate a Gesù. La chiave di lettura delle scritture di Israele chi è? È Gesù. Si crea allora un rapporto, sentite questo termine, di continuità con le letture, ma anche di discontinuità, che però non crea un'opposizione, come molti vorrebbero vedere, ma crea invece una correlazione, cioè una correlazione tra gli scritti, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra il Primo e il Nuovo Testamento. Ma il volto che noi leggiamo nelle scritture, diciamo che il volto di Dio crea nei cristiani che leggono, perché noi non siamo anche i primi che abbiamo letto la scrittura, anche nei cristiani dell'origine ha creato delle problematiche. E la problematica era quella di questa mattina qua. Ma il Dio che Gesù Cristo annuncia è veramente lo stesso Dio di Israele? Cioè, se il Padre di misericordia, se il Dio che fa grazie e che perdona, coincide con il Dio di Abramo, di Mosè, di Davide, dei profeti, che spesso appare come un Dio severo, duro e perfino violento? No, si pone questa domanda. E non era poi una domanda da poco, perché qui nascono problemi di qualsiasi tipo. Allora, i padri, che sono i primi commentatori della scrittura, affrontano questo tipo di domande in alcuni testi, dove riconducono, possiamo dire così, queste tematiche particolarmente complesse a due, diciamo così, a due categorie fondamentali. Da un lato leggono i testi come attributi divini, cioè le caratteristiche di Dio, dall'altro leggono questi testi chiamandoli episodi specifici. Quindi i padri della Chiesa iniziano a leggere la scrittura ponendosi queste domande. Allora vi faccio degli esempi. Se noi prendiamo Isaia, Isaia 45 dice: io faccio il bene e creo il male. Bella come frase. Io faccio il bene e creo il male. Ai, creo il male. Isaia 45, 7. Dio indurisce il cuore del faraone Esodo 4:21. Lo rende così ostinato dal non obbedire al Dio alla volontà di Dio. Oppure Salmo 97. Dio è come un fuoco che brucia tutto intorno i suoi nemici. Vedete che comincia a porsi la nostra questione. Sono dunque degli episodi che manifestano un agire violento di Dio. Ma allora il racconto del diluvio vi sembra così bello? Al di là che ha salvato i nostri cani, i nostri gatti, ci ha permesso di averceli oggi, no? Siamo tutti più felici per questo. Ma il diluvio che cosa ci presenta? Ci presenta Dio che vuole distruggere l'umanità intera. Dio si era stufato di questa umanità. Oppure questo è anche interessante, secondo il libro dei Re, 2 Re 23-25, è l'episodio in cui diversi ragazzi deridono Eliseo e questi in risposta evoca due orse che all'improvviso sbranano i bambini. Capito? Bello, questo? Non so, parroco di Villa San Costanzo viene bullizzato dai bambini del catechismo. Sì, bravi. Io vi faccio prendere da due luponi enormi che ci sono vicino alla canonica che vi divorano. Giornali sicuro, eh? Vedete che allora queste pagine sono pagine che, come dire, danno una certa difficoltà nella lettura. Poi, quest'ultimo episodio di Eliseo, sapete che nella liturgia proprio non si legge mai, non so quanti cristiani conoscono questo episodio, però tematizzano il problema della violenza. Allora, tornando all'episodio delle orse evocate dal profeta, indubbiamente possiamo dire così, che un miracolo di questo genere colpisce noi, come colpiva i cristiani già dei primi secoli, i quali contrapponevano a tale episodio quello in cui Gesù comandava: lasciate che i bambini vengano a me. Ecco perché vi ho detto, il titolo di questo sottocapitolo è questo, il Dio violento nella Bibbia, il Dio del Primo Testamento e del Nuovo Testamento, lo stesso padre o sono lo stesso padre? Capite che un profeta che dice agli orsi di mangiarmi i bambini, come lo mettiamo insieme a Gesù che dice lasciate che i bambini vengano a me? Da un lato Gesù insegna così, mentre il profeta Eliseo fa sbranare questi bambini. Sono due atteggiamenti lontanissimi. Oppure molte volte si è fatta un'assimilazione tra Giosuè e Gesù da un punto di vista fonetico, perché la radice ebraica esprime lo stesso nome. Yeshua è semplicemente un'espressione, una fonetica diversa rispetto all'uso del nome di Giosuè. Però la radice è sempre il verbo Yasha, che è il verbo salvare. E si proponeva un modello allegorico della lettura di Giosuè con Gesù. Ragazzi, ma quanto ha fatto Giosuè mi sembra abbastanza diverso da quanto ha fatto Gesù. Se poi uno è esperto invece della letteratura del libro di Giosuè, si accorge benissimo che Giosuè non è esperto in strategie militari, ma in Giosuè 1 è esperto nella meditazione della legge della Torah di Mosè. Compito di Giosuè non è quello di combattere, compito di Giosuè è quello di spartire la terra. Però intanto noi abbiamo 12 capitoli, signori, di guerra, sangue, teste tagliate e tante cose di questo genere. Come facciamo a assimilare nella lettura allegorica Gesù e Giosuè? Risulta essere impossibile. Quindi il problema risulta essere particolarmente serio. Prendiamo un altro luogo, il libro di Giobbe, in cui si trovano dei testi in cui questo protagonista Giobbe arriva addirittura ad odiare Dio. Odiare Dio che gli ha usato violenza. Prendete questo testo delle confessioni di Geremia. Signore, mi hai sedotto e mi hai fatto violenza. Mamma mia. Un caso di pedofilia, no, però qui era giovanotto. Comunque è già abbastanza grave tutto questo, eh? Capite che queste letture hanno urtato i sentimenti di chi leggeva. Ho questa lettura che è molto particolare, che dice così, la redazione lucana della parabola dei talenti. Ricordate? In questa parabola è mescolata però una storia dove ricordate che questo re parte per la campagna, dà dei talenti, poi dopo qualcuno li usa, qualcuno non li usa. Ma noi dovremmo conoscere anche però il sottofondo culturale di questa parabola, che si rifà probabilmente alla storia di Archelao, il figlio di Erode il Grande. Alla morte di Erode, personaggio squallido, Archelao va a Roma per chiedere se il regno del padre potesse passare direttamente nelle sue mani. Ma dal momento che i giudei erano sazi della brutalità con cui Erode aveva governato sulla Giudea, i giudei inviano invece un'ambasceria per conto loro propriamente a Roma per contestarlo, perché non lo vogliono come governante. Archelao invece viene nominato re e, tornando a casa, che cosa fa? Fa uccidere tutti questi giudei che non l'avevano voluto re. Ah, ma la versione lucana della parabola dei talenti è identica. Perché? Perché la versione della parabola richiama quella vicenda dove la figura del protagonista dovrebbe essere Dio stesso, ed è la figura di un re che fa uccidere tutti coloro che non lo accettano. Poi noi siamo bravi a grattare sui muri, arrampicarci e dire no, ma momento, questa parabola è una parabola escatologica, che vuole dire? Bene, però intanto questi testi non feriscono, feriscono molto. Il testo di ieri anche del Vangelo, no? I figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Guardate che sono scivolosi questi testi qua. E allora ecco che il secondo punto è: abbiamo dei testi che, vedete, messi insieme col Nuovo Testamento veramente fanno difficoltà. Abbiamo una prima lettura, la Chiesa risponde in un primo modo. Un primo aspetto importante da considerare per questa questione è il diverso contesto e l'uditorio con cui i padri invece leggono la scrittura. Allora, i padri ci insegnano ad affrontare questi testi in tre modi diversi. Il primo, commentando la scrittura nella predicazione e dunque nel contesto della comunità cristiana, cercano di rispondere agli interrogativi e ai dubbi che possono nascere dai cristiani quando sentono nascere questi testi. Per cui, il primo tentativo dei padri è di essere pastori, non esegeti, è di essere pastori, e quindi di mettere il proprio popolo nelle condizioni di leggere questi testi, come facciamo noi. Secondo, i padri però devono anche affrontare le derive che nascono dagli orientamenti eretici che possono nascere da un'interpretazione particolare di questi passi. Perché in questo caso, che siamo nell'ambito cristiano, ma anche di un cristianesimo che per rispondere a queste domande così evocate prende delle posizioni che vengono giudicate sbagliate, e dunque il contesto diventa polemico. Quindi, sul farsi di questa questione, il Dio di Israele e il Dio di Gesù sono diversi, nascono anche le prime eresie, che diventano però un grosso campo di battaglia. E poi vi dico, c'è la terza situazione, la situazione invece con il mondo pagano. Ecco, il mondo pagano che conosce una parte di religiosità che è legata sia alla mitologia, dove sì questi dei erano scorretti verso l'umanità, ma c'era anche una cultura intellettuale dove la religiosità è più di stampo filosofico e monoteistico. Questi filosofi sì polemizzano coi cristiani perché hanno un'idea di Dio elaborata e particolarmente costruita, mentre fare i conti con il Dio biblico è un qualche cosa che questi filosofi ritengono essere particolarmente grezzo, d'accordo? Per cui il focus fondamentale è soprattutto il secondo: quale risposta dare a questi momenti? Cioè, primo Nuovo Testamento, è lo stesso padre oppure no? Per non pochi cristiani del secondo e del terzo secolo a questa possibile domanda la risposta era no, non è lo stesso Dio. Allora noi entriamo in un periodo abbastanza difficile, che è il periodo, però non ne parliamo sicuramente questa mattina, Sergio potrà fare tantissime evoluzioni su questo, il periodo di Marcione, d'accordo, che in un rapporto un po' complesso tra la gnosi e il marcionismo, dove poi è difficile comprendere se Marcione sia andato nella gnosi oppure meno, abbiamo però questa situazione importante. Il Dio di Gesù Cristo è radicalmente diverso rispetto al Dio delle scritture di Israele. È un altro Dio, sostiene Marcione. Perché il Dio cristiano è il Dio straniero, è il Dio sconosciuto, è il Dio che neppure la divinità dell'Antico Testamento poteva conoscere. Quindi, che cosa veniva suggerito? Veniva suggerito, adesso ve lo dico proprio in flash, veniva suggerito, mettiamo da parte l'Antico Testamento perché non serve, ma anche Marcione ha fatto un lavoro di derubricazione del Nuovo Testamento, di tante parti, che secondo lui appunto screditavano questo messaggio del Signore Gesù. Gli risponde, la risposta molto bella, è invece di Ireneo, in questo suo scritto, Adversus Hereses, dove il titolo originario, voi sapete, è Svelamento e confutazione della falsa gnosi, e prende in conto la gnosi, ma poi anche risponde a tutto quello che riguarda il problema del marcionismo. Saltiamo un po', perché sennò non finiamo più. Ecco, la questione interessante a cui risponde Ireneo è questa. Marcione, dicendo che cioè serve una discontinuità dirompente tra Antico e Nuovo Testamento, Marcione, bestemmiando con quel Dio che è stato annunciato dalla legge dei profeti, egli lo definisce come creatore di creature malvagie, che desidera le guerre, è incostante nelle decisioni e si contraddice su se stesso. Vedete che questo ogni tanto, voi non siete marcioniti assolutamente, però ogni tanto ci può un pochino venire. Quindi è necessario porre questo interrogativo per dire attenzione, perché la difficoltà nella lettura di questi testi nasce dalla concezione con cui questo testo è stato scritto. Questa è un'importante sottolineatura che arriva dallo scrittore Zenger, che probabilmente avete già anche letto nei vostri studi. Noi non possiamo leggere i testi con quella concezione di testo che avremo noi oggi per descrivere gli avvenimenti, perché sensibilità, struttura, cultura, conoscenze, generi letterali sarebbero decisamente diverse dalle nostre. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo essere capaci di entrare in quella concezione di testo che ha permesso che queste scritture giungessero a noi, prima nella sua forma orale, poi nella sua forma scritta. In questo modo qui, allora sì, ecco che Ireneo ci fa capire che il nucleo fondamentale è chiaro. Il rifiuto di identificare il Dio di Gesù Cristo col Primo Testamento è errore. Questo Dio è il Dio dell'Antico Testamento e il Dio, sicuramente, del Dio di Gesù. E allora Ireneo e in generale gli autori antimarcioniti risponderanno che Gesù Cristo è sì qualcosa di nuovo. Guardate che bella risposta. Gesù Cristo è sì qualcosa di nuovo rispetto al Primo Testamento, ma tale novità non è in disaccordo, bensì è in continuità rispetto alla tradizione giudaica. Ancora un attimino, 5 minuti. Spezziamo però una lancia anche per il nostro Marcione e per i nostri eretici, per dirci che cosa? Per dirci questo, che in realtà questi momenti di crisi sono però molto importanti, perché permettono alla teologia di andare avanti. Cioè ogni tanto abbiamo bisogno anche di trovare, con calma, degli avversari che ci permettano di proseguire. Ecco, di non fermarsi sul solito, sul conosciuto, sull'abitudinale, di andare a leggere in profondità le scritture. Sapete quanto male ci ha fatto l'illuminismo per certi versi? Sentirsi dire, la religione è l'oppio dei popoli. Certo, quando gli incontri di preghiera diventano calmierizzanti delle coscienze rispetto alla brutalità del mondo che c'è fuori, perché la Chiesa non ha più questo carattere profetico verso le ingiustizie che si compiono nel mondo e tenta invece molte volte semplicemente una lettura morale della vita? Perché non spendersi radicalmente verso questi poveri di cui Gesù si è fatto interprete e si è fatta voce? Vedete che è bellissima allora questa, vedete che allora la scrittura parla, la scrittura brilla. E allora concludiamo questa prima parte dicendo così, avremo poi un personaggio importante nella lettura e alcune risposte, diciamo così, che danno i padri alla questione del Dio violento. mi sarebbe piaciuto proporvi questo, è in Origene. Origene nel suo, nella sua opera fondamentale, che non so se si riesce ancora a trovare in italiano, però nelle sue opere lui ci dice così: il Dio che si rivela severo dell'Antico Testamento è il Dio che si rivela tale per il bene del peccatore. E allora mettono in campo due momenti: il momento della pedagogia divina, cioè Dio ogni tanto ha bisogno di utilizzare una pedagogia particolarmente forte per indirizzare vie di conversione, e poi però rileggono tutto questo all'interno dell'economia della salvezza, ovvero nel dispiegarsi complessivo di tutte le fasi. Quindi attenzione, e Origene in questo è davvero un campione, nel ricordarci che nel momento in cui noi leggiamo queste pagine particolarmente complesse e per noi anche tese della scrittura, nei suoi principi, Origene, principio dell'ermeneutica, invita a una lettura spirituale del testo, che non è la lettura devota, questo va bene sempre, ma è una lettura nella concezione dello spirito con cui queste lettere sono state scritte, invitando cioè a mettere insieme tutti i puntini di una linea e non soltanto un punto. E allora noi, quando leggiamo il Dio severo della Bibbia, dobbiamo andare a vedere che cosa questo Dio così severo in realtà ha voluto dirci. Entriamo nella seconda parte, questa era, diciamo così, una questione metodologica, però allo stesso tempo ermeneutica e interpretativa, che vi aiutava già, potremmo dire così, no? A mettere, no? I contorni per il vostro studio e successivamente per la vostra vita di preghiera. È come se io vi avessi detto, no? Andiamo a nuotare, andiamo al mare, ma prima sulla spiaggia ci diamo una sistematina, perché alla prima bracciata non rimaniamo bloccati, ok? Adesso però, secondo momento, entriamo nel mare, d'accordo? Quindi in questo momento è per cuori forti, per andare a vedere insieme allora alcuni aspetti, no, necessari al nostro tema. E io vi ho preso un tema crudissimo, che è il tema appunto della violenza. Allora, come fare? Naturalmente io salto una parte che sarebbe ancora stata metodologica, ma che riguarda il modo con cui molte volte noi cristiani ci siamo avvicinati alla Bibbia, e mi fa molto piacere perché voi siete un gruppo che è nato da questa sapienza di Don Giorgis, che ha saputo educarvi su come la scrittura non vada intesa e studiata secondo il modello della sostituzione. La Chiesa di Dio non è il nuovo Israele. Mi dispiace per chi pensava così, ma noi non siamo il nuovo Israele. Alcune volte uscivano i commentari, negli anni 60 ancora, sul Vangelo di Matteo: la Chiesa è il nuovo popolo di Dio. Croce rossa. Alcune volte si è fatto col modello della relativizzazione: l'Antico Testamento è solo l'ancella del Nuovo Testamento, quindi si va a prendere dall'Antico Testamento quello che più o meno serve, un po' come quando si va in una cava e si prende qualcosina, vedete, un'immagine detrimente ancora nell'Antico Testamento. E poi c'è il modello della selezione, ancora più particolare, dove allora il modello della selezione dice che l'unità della rivelazione insiste con forza e che l'Antico Testamento è il seme che per necessità interiore spinge verso la fioritura neotestamentaria, e cioè il Nuovo Testamento è la misura esclusiva per quello che è l'interpretazione dell'Antico Testamento, no? Quindi questi metodi abbiamo visto che nel passato ci sono stati, hanno creato anche dei determinismi importanti, tipo quella che viene chiamata The Teaching of Contempt, cioè la dottrina del disprezzo, che nasce poi e si riverbera in un incredibile antisemitismo. Noi vogliamo fare nostre, così entriamo nel tema, nelle parole che cita la Nostra Aetate, documento del Concilio Vaticano II del 1965, che dice così: la Chiesa non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dall'antico Israele e dall'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'antica alleanza, e che essa si nutre della radice dell'olivo buono su cui sono stati innestati i rami dell'olivo selvatico. Nostra Aetate 4. Quindi, cari miei, non perdete mai l'Antico Testamento per leggere il Nuovo Testamento. Quindi la prima risposta ce l'abbiamo. Il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento hanno lo stesso Padre, senza punto interrogativo. Sereni, dormiamo pure questa notte, Proviamo a risolvere però alcune questioni nostre. Giovanni Paolo II, quando poi è andato a visitare il Tempio Maggiore di Roma nel 1986, fa questo discorso straordinario, riprendendo la Nostra Aetate, dicendo così: vorrei che fossero superati i vecchi pregiudizi e si faccia spazio al riconoscimento sempre più pieno di quel vincolo, di quel comune patrimonio spirituale, che esistono tra ebrei e cristiani. La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra religione. Abbiamo quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo con nessun'altra religione. Siete i nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire siete i nostri fratelli maggiori. D'accordo? Quindi con questa parte, concludiamo la parte dell'ermeneutica della Bibbia ebraico e cristiana. Allora io vi propongo una lettura su questi testi che sicuramente sono particolarmente densi, e cominciamo da uno, quello che riguarda la metaforizzazione della teologia della guerra. Bello, questa espressione, teologia della guerra. In questo periodo sta uscendo di tutto, teologia politica, teologia del verde, teologia, tantissime teologie. Io vi propongo questa mattina la teologia della guerra. Tempo acceso, però. Vi faccio anche ridere perché ai miei studenti di Fossano ogni tanto devo proprio partire non da piano terra, ma da molto più sotto, no? Però vi devo dire così: quando noi parliamo di queste cose, attenzione, perché noi non stiamo parlando dell'Israele di oggi. Noi stiamo parlando dell'Israele della Scrittura. Quindi tutto questo non ha niente a che vedere col sistema che c'è adesso in Israele, con i razzi, con le bombe, con Hamas, con Hezbollah e tutto. Però è importantissimo distinguere. Qualcuno ogni tanto, una volta mi ha anche chiesto questo: ma allora non si può interpretare questa guerra che sta facendo Israele contro, in chiave addirittura biblica? Assolutamente no, perché avete visto che le dichiarazioni che stanno facendo Netanyahu, anche nei suoi deliri, mai utilizza la scrittura. Però non facciamo questa assimilazione pericolosissima, che creerebbe allora sì un antisemitismo importante, una nuova notte dei cristalli, come abbiamo visto questi giorni. Per cui il nostro riferimento fa sempre riferimento a quell'ebraismo, a quegli israeliti, a quella situazione, va bene? Questo però è importante anche quando voi un giorno dovrete poi parlarne. Teologia della guerra, e non sono Putin che sto parlando adesso, mi raccomando. Allora, noi abbiamo la conquista spietata e violenta della terra. Quando arriviamo al Deuteronomio, noi ci troviamo nell'ultimo giorno di vita di Mosè, ci troviamo alle steppe di Moab, alle falde del Monte Nebo. L'ultimo giorno di vita di Mosè vengono espressi tre grandi discorsi e poi le ultime benedizioni, in cui però ecco che abbiamo anche questo riferimento alla guerra di conquista di che cosa? Della terra promessa, perché entrare nella terra promessa è stata appunto una conquista. Ora, la guerra costituisce il simbolo di questa grande conseguenza che il Signore ha voluto donare per noi una terra, per cui la guerra viene intesa, secondo il popolo di Israele, nell'ottica della fede, come un tempo in cui Dio entra nella storia e Dio combatte per noi. Per cui l'applicazione del famoso Erem, cioè lo sterminio di massa delle popolazioni, diciamo così, parla dell'annientamento dei popoli, ma non soltanto per le guerre condotte nell'occupazione della terra, ma diventa anche metaforicamente un significato importante per Israele quando rientrerà dopo l'esilio babilonese. Perché vi ho detto questo? Perché il Deuteronomio, quando è stato scritto, il Deuteronomio dove c'è questa teorizzazione della guerra, non è stato scritto nell'ultimo giorno di vita di Mosè e hanno preso questi e hanno registrato le sue parole. C'è stata una formazione molto lunga, c'è stato l'invenimento probabilmente del rotolo del Deuteronomio intorno al 620 nelle mura del Tempio di Gerusalemme durante il regno di Giosia, e poi questo rotolo viene rielaborato, per cui vedete che in realtà la teologia, chiamiamola della guerra, risulta essere un risultato di riflessione passata su un avvenimento lontanissimo, perché siamo dal 620, immaginate, al 1000, sono passati quasi 400 anni. Potremmo dire, e se noi ci trovassimo di fronte ad una ideologia della guerra al posto che una teologia, o a un idealismo della guerra, perché? Noi sappiamo che storicamente la campagna militare del popolo ebraico, ecco, nella terra promessa, e dunque l'eliminazione di tutte le popolazioni di Cana, non è mai esistito. Non è mai esistito. Perché l'archeologia, grazie a Dio, ci conforta su questo: quando Israele è entrato nella città di Gerico, la città di Gerico non c'era più. Il racconto allora è un racconto sacrale, e se ci pensate si capisce. Sacerdoti che girano attorno alla città di Gerico, suonano il flauto 7 giorni, le mura vanno giù. Sì, ma che guerra è questa qua? I preti adesso che si mettono a fare queste cose sarebbero ben potenti, no? È un'immagine sacrale per dire il Signore l'ha messa nelle nostre mani. Per cui l'immagine di un'orribile guerra santa, di annientamento contro gli abitanti della terra sistematizzata, generalizzata, manipola, possiamo dire così, volutamente gli elementi più arcaici della tradizione. Che cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo questo, che allora il cosiddetto Erem, le liste dei popoli in parte già scomparsi e in parte leggendari, vengono promesse nella terra con l'espulsione delle sue popolazioni, probabilmente questi aspetti parlano della metaforizzazione della guerra, ovvero l'intenzione non era di proporre una ricostruzione storica degli inizi di Israele, era invece l'ordine di annientare i popoli inteso in senso parabolico spirituale. Perché la lista dei popoli che voi leggete nel libro di Giosuè non corrisponde ai popoli con cui Giosuè avrebbe dovuto confrontarsi al momento dell'ingresso nella terra promessa. Potremmo dire così, sono una stigmatizzazione di queste popolazioni. Per dirci che cosa? Che la terra in cui tu entri in possesso, questa terra è un dono di Dio. Quindi, se è un dono di Dio, tutto è bruciato, perché è un partire dal nuovo. Questo è il senso. Questo è il senso dell'Erem. Allora, ecco che l'uso della metafora biblica per esprimere questa immediatezza della fede in Dio, ossia la felicità, si costruisce più tardi attraverso l'immagine luminosa della storia fallita dopo tanti anni di conquista di Israele. Se io sono un abitante di Gerusalemme che devo andare in esilio in Babilonia, mi chiedo, come mai sono qua? Come mai? Certo, sono qui perché o Dio è cattivo. Ecco l'immagine, Dio conquista la terra per te. Vedete, Dio non è cattivo. Quindi io sono infedele, perché io non ho corrisposto a questa alleanza che Dio aveva fatto con me. Per cui la teologia della guerra, o l'Erem, che viene descritto, se volete leggerlo questa sera, se volete, provate a dormire leggendo Deuteronomio 7, L'Erem è una conseguenza di questa dedizione di Yahweh a Israele, che è un popolo povero, piccolo e impotente, ma è stato scelto da lui nel mondo per essere strumento del suo agire storico. Quindi, dietro a questo comando di distruggere ogni essere vivente, uomo, donna, bambino, animale e anche alberi, che cosa c'è dietro questo comando? Beh, dietro questo comando sta la concezione dell'Antico Oriente della guerra come giudizio. Allora io capirò che quei racconti mi pronunciano un Dio che dentro la storia pronuncerà un giudizio. Che quale? Tutti quei popoli che faranno del male a Israele saranno combattuti da me. Parabolico, simbolico. Dirmi, meglio ancora, possiamo dire così, io devo leggere lo scritto, quando è scritto di violenza, dalla parte della vittima, che la vittima è Israele che grida, salmo che abbiamo letto sui fiumi di Babilonia, io sono oppresso da tutte le parti, da Babilonia, da Edom e da questa qua. Che cosa c'è nel nostro cuore? Dobbiamo dircelo, c'è il desiderio molte volte di fare vendetta, dal momento che nella giustizia non ci crediamo più, no? Abbiamo voglia di vendicarci noi. Questo è quello che emerge dentro la scrittura. E allora il salmista che cosa chiede? O lo scrittore? Chiede che sia Dio a operare giustizia. Certamente, però non si può che non esprimere utilizzando quel linguaggio che, capite, 2500 anni fa poteva essere compreso. Qual era questo linguaggio? Il linguaggio della guerra. Capite che allora questa metaforizzazione ci permette di leggere in modo più corretto questi brani dove la violenza sacra è operata dalle mani di Dio. Poi abbiamo tutto un altro tipo di violenza che è quella che grazie a Dio invece facciamo noi, no? Però, diciamo, questa violenza sacra può essere intesa con questa teologia della guerra di Deuteronomio 7. Ora andiamo a vedere però, da un punto di vista semantico, cioè di parole, di sostantivi, quante volte ricorrono i sostantivi violenza, guerra e pace nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Iniziamo dalla violenza. Forse non esiste in nessun'altra raccolta di testi religiosi nella quale la violenza sia così presente come nella Bibbia. Cominciamo a parlare, vi ho detto, da Caino e Abele, ma perché prendiamo l'inizio, prendiamo anche la fine, le fantasie piene di violenza che sono presenti nell'Apocalisse. Apertura e chiusura della nostra Bibbia. Dall'inizio alla fine si parla di violenza. Ma se poi noi siamo più attenti, noi ci accorgiamo che la sua presentazione non è affatto unitaria. Perché noi troviamo alcune volte degli spunti di esaltazione della violenza, tipo Giosuè 6, distruzione di Gerico, gustosa la pagina di Elia che ammazza 850 sacerdoti sul monte di Carmelo, anche questa non è male, d'accordo? Ma allo stesso tempo abbiamo anche il disprezzo della violenza e il programma di una vita vissuta senza violenza. Prendete Isaia 7. Potremmo Isaia 7, prendete il libro dell'Emanuele, d'accordo? Questo bimbo che nasce, no? Di fronte alla guerra siro-efrainita, il Signore propone la nascita di un bambino. Vedete? Il Signore alla violenza contrappone invece la nascita di un bambino. Oppure il primo cantico del servo, luce delle nazioni. Geremia 6. Oppure pensiamo a Gesù. Gesù è diventato vittima della violenza statale. Per cui vedete che allora abbiamo una policromia di ambiti in cui possiamo parlare di violenza sacra, oppure di violenza come elemento di purificazione, o altri elementi in cui la violenza non viene accettata attraverso un atteggiamento non violento, che rimane chiaro nella persona di Gesù. Per cui la Bibbia ha questo grandissimo compito, che è quello di smascherare quelle strutture di violenza che rovinano l'uomo e rovinano anche il suo campo religioso. Prendete come riferimento la lettura di Isaia, da Isaia 1 a Isaia 11. Questi 11 capitoli ci fanno vedere che la guerra non ha senso di esistere. Questa è la risposta del profeta, 8° avanti Cristo. Allora, il modo di affrontarla, però, questo dobbiamo essere realisti, il modo di affrontare il tema della violenza deve essere storico, cioè nel senso che dobbiamo illustrare il carattere storicamente condizionato con cui la narrazione si espone, ma anche, e questo è importantissimo, il potenziale critico, quale il grido degli oppressi che invocano i loro diritti, tipo i salmi così chiamati di maledizione. Qui sono le vittime che chiedono un aiuto e lo esprimono attraverso questo grido violento: Signore, fammi salvezza, Signore, uccidi il mio nemico. Dai, Salmo 144, è fantastico quando lo leggiamo al mattino prima di iniziare la nostra attività. Benedetto il Signore mio Dio, che addestra le mie mani alla guerra e le mie dita alla battaglia. Se fosse così, Signore, non dovremmo più leggerlo, eh? Ma è quello che prega Netanyahu tutte le o è quello che posso pregare io quando devo andare alle riunioni in curia, no? Capite, no? E allora, no, però bisogna entrare all'interno di questa effettiva e di questo linguaggio, no? Capisce che se mi sta parlando un uomo che è vissuto nel tempo delle guerre, d'accordo? Delle guerre degli Assiri, Assiri duri, babilonesi durissimi come il fuoco. Se deve trovare un'immagine evocativa per parlarmi della liberazione, non potrà parlarmi sicuramente del movimento di Sant'Egidio e della contrapposizione di Pax Christi, no? Perché non c'era. Mi dovrà parlare di quel momento forte in cui Dio entra nella storia e mi abilita attraverso la guerra. Sta chiedendo la guerra? No. Che cosa sta chiedendo? Sta chiedendo la liberazione, che è diverso. Quindi, vi dicevo, un conto è la lettura storica, ma poi attenzione, importante, è il potenziale critico della lettura. Chiediamoci, chi è che ha scritto questo? Ah, ma allora se un popolo povero, impoverito, oppresso, immaginate la dura reprimenda che fa Amos nel suo scritto, Osea. Il povero ha bisogno di giustizia, non trova nessuno che se la fa. Punto di domanda. È lecito che gli oppressi risolvano le questioni di ingiustizia tra di loro facendosi violenza privata? Assolutamente no. E allora rimetto la mia causa nelle mani di chi? Nelle mani di Dio. Se sono di quell'epoca lì, lo descriverò in questo termine. D'accordo? Questo è bellissimo da riuscire ad andare a leggere. Dall'altra parte però dobbiamo anche ribadire che Antico e Nuovo Testamento contengono alla luce del loro centro, cioè alla luce dell'idea di Dio, anche una critica radicale alla violenza. Per cui vi direi di fare attenzione che lo stereotipo anti-ebraico consiste davvero nel distinguere tra un Antico Testamento che si suppone violento a un Nuovo Testamento non violento. È sbagliato. È sbagliato dal punto di vista dei testi ed è anche un'eresia dal punto di vista teologico, perché contesta il carattere di rivelazione di tutta la scrittura e pone alcuni testi al di fuori dei contesti religiosi. Allora vediamo, la Bibbia. La Bibbia conosce la violenza, di fatto una violenza legittimata anche dallo Stato. Pensate a 2 Samuele 8, quel bellissimo gesto, no? Di Davide che va a prendersi Bezzabea, bello, come gesto, un re potente che va a prendersi la moglie di un altro, elegante, elegante. Oppure 1 Samuele 8, la violenza statale viene smascherata come sistema di sfruttamento, quando cioè Samuele dice: volete un re? Bravi signori, prendetevelo pure questo re farà eserciti, prenderà i vostri figli per farne i cavalieri dei vostri cocchi, poi vi chiederà la decima e poi prenderà anche le vostre ragazze, le farà le profumiere, che guardate un termine molto gentile per dire qualcos'altro. Questa è la violenza statale. Nell'Apocalisse questa violenza va incontro al proprio tramonto, è antidivina e satanica. Nell'Apocalisse la violenza è antidivina e satanica. Prendiamo i racconti della passione di Gesù che lasciano trasparire nell'atteggiamento di Gesù un profondo rifiuto nella violenza. Ma la violenza che cos'è? La violenza è il frutto, secondo la narrazione giovannea, del peccato del mondo. E il primo a commettere violenza è proprio Ponzio Pilato. Col suo atteggiamento, potremmo dire così, un pochino ondulatorio, lui rappresenterebbe il garante della giustizia. Invece, lui opera una falsa giustizia statale assassinando un innocente. Per cui la Bibbia simpatizza sempre per le vittime collettive o individuali della violenza. E allora vengono promessi altri scenari, gli scenari di speranza, in particolare sottolineando l'amore di Dio per le proprie creature, la salvezza, il futuro e la gloria scatologica. Pensate all'Esodo, ma questo è l'emblema di tutto, dalla schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita. Dio si prende cura del suo popolo facendolo camminare, nutrendolo durante il cammino, liberandolo dai nemici, traghettandolo verso dal Mar Rosso, verso la terra promessa. È un Dio forte, altro che è un Dio forte che sbaraglia chi? Il faraone. Ma allora noi dobbiamo leggere meglio questo testo. È un testo in cui la vera lotta nel libro dell'Esodo è chi è il vero Dio. Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, mediato da Mosè, o il faraone, che attraverso il suo sistema statale, no, di schiavitù, negava ogni diritto di sussistenza al popolo ebraico. Per cui questa è l'idea determinante anche nelle fantasie dell'Apocalisse. Guardate che nell'Apocalisse è bellissimo, perché la svolta finale in direzione del bene, che noi chiamiamo il giorno del giudizio, è attesa e sospirata come una manifestazione della potenza e della violenza. Nell'Apocalisse la violenza è così tanta che si autodistrugge da sola nel combattimento finale. Per cui, se questo tratto dell'immagine biblica di Dio ci crea delle difficoltà sicure nella sua recezione attuale, bisogna riconoscere però anche un altro aspetto, che una sua negazione, cioè la negazione della violenza, non spiega a chi dunque si debbano rivolgere coloro che nel mondo sono abbandonati dalla violenza. Cioè coloro che nel mondo subiscono la violenza, a chi si devono rivolgere? Si devono rivolgere a questo Dio forte che distrugge. Per cui la critica oggettiva non deve cominciare, attenzione, dai testi, ma la critica deve iniziare dalla realtà dei testi. Questo vuol dire che noi dobbiamo, quando leggiamo i testi, fare questa lettura speculare, mirror reading, dire: ma questo testo, chi l'ha scritto? Come l'ha scritto? Perché è arrivato a scrivere così? Meglio, chi c'è dietro questo testo? Vedete che allora esce fuori la voce di chi? Di chi fatica. La risposta alla violenza è la violenza. Anche la Bibbia sa che non è così, mettendo a punto la legge del taglione, che è già un modo di bloccare la violenza. Ma dal punto di vista teologico, il giusto modo di procedere leggendo questi testi consiste nel cambiare la situazione in modo che la violenza non esista più e che nessuna vittima abbia bisogno di invocare la violenza di Dio. Ecco il cambiamento che poco per volta entra nell'Antico Testamento. C'è questo Dio che è prossimo, c'è questo Dio che crea un giardino meraviglioso, ma questo giardino si rovina dopo pochi giorni. Adamo ed Eva, Caino e Abele, Lamech che uccide un uomo e un bambino, Noè, la terra era piena di violenza, ecco il diluvio, ecco Dio che deve distruggere tutto. E allora la vera comprensione sarà che non basta rispondere nella giustizia alla violenza. Lo vedremo adesso. Alla violenza si risponde con la giustizia, ma questa giustizia deve essere sapiente, cioè attraverso la conversione del cuore. Diversamente dallo schema di giustizia, anche di una giustizia buona, che tenti di dare un posto dove la violenza si possa convogliare, ancora questo è una risposta insufficiente. Per cui questo è il tema della violenza. Abbiamo allora, sì, eccolo qua, il tema proprio della guerra. Nella cultura ebraica il sostantivo per esprimere guerra si può vedere in tre ambiti. Si chiama milmama, che può essere battaglia, altre volte diventa sabbah, voi lo sapete, Deus Sabaoth, sarebbe il signore degli eserciti, e poi krab, no, che sta per dire lotta, mentre la pace viene definita sempre con il termine shalom. Ora, la guerra fa parte della realtà del mondo biblico, tanto più in una zona geopolitica dove le guerre sono sempre state all'ordine del giorno. Ora, Israele è vittima del fascino illusorio della guerra, questo non dobbiamo dimenticarlo, anche Israele è vittima di questo fascino, per cui la descrizione degli eventi bellici del Primo Testamento molte volte vogliono vedere in questo modo l'imposizione del diritto di Israele. E ancora di più, attenzione, perché l'analisi storica dimostra che non tutte le forme di guerra siano accettabili. Facciamo degli esempi. Nel Pentateuco, ma anche in Giosuè, la partenza di Israele dall'Egitto e la colonizzazione del territorio vengono descritte come una guerra militare, come una strategia. Però questo senso non corrisponde, vi ho detto prima, con la realtà storica. Quindi va riconosciuto, e questo è importante, che la guerra viene presentata come un fondamentale evento del passato. La guerra è un evento fondamentale del passato, ma le proiezioni militari nel passato fanno percepire al lettore l'insensatezza nella guerra nel momento presente in cui il testo è stato scritto. Per cui noi abbiamo un testo, Giosuè, che ci parla di guerra, d'accordo? Ma quando il testo di Giosuè è stato scritto, il ricordo di quella guerra era lontanissimo, addirittura siamo in tempo post-esilico. Per dirci che cosa? La guerra non è mai la risposta adeguata. Per cui noi andiamo all'evento fondamentale dell'ingresso nella terra, che però non dice la guerra, metaforizzazione della guerra. La guerra è Dio che dona un territorio, ma noi non dobbiamo agire con la guerra, perché noi abbiamo visto che nel momento in cui agiamo con la guerra diventiamo ingiusti. Anzi, perdiamo anche il territorio. Altre volte però, purtroppo, la Bibbia ci fa anche vedere che la guerra non viene esercitata semplicemente come strumento di liberazione, ma la guerra diventa anche un motivo per fare violenza ad altri. E allora c'è una responsabilità non assegnata semplicemente agli uomini, ma addirittura a Dio. Che cos'è questo sterminio che il Signore vuole? Antico Testamento, andiamo a prendere Genesi 9, Levitico 17, Numeri 35, Deuteronomio 7, che sono tutti posti importanti. Allora, e chiudiamo su questo aspetto. Per la comprensione di questi testi deve aggiungersi la critica teologica, vi ho detto. Cioè, qui si vede chiaramente come questa critica è largamente documentabile nella scrittura per il fatto che ci presenta la pace come struttura fondamentale che Dio ha assegnato alla sua creazione. Dio si è mosso nella pace, non nella guerra. Allora, la vera pace è possibile soltanto quando regna la giustizia. Ecco perché il binomio giustizia e pace nella Bibbia molte volte è legato insieme. Non esiste pace se prima non si fa giustizia. Non esiste pace se prima non si fa giustizia. Prendete a riferimento della storia di Giuseppe con i suoi fratelli, quando si presentano da lui per prendere un po' di grano perché c'era stata la carestia. Giuseppe non è stato un cristiano all'inizio, donandogli subito il perdono: ma sì, ma che bravi che siete venuti da me, ma io vi perdono, mi avete fatto tanto male, ma il Signore con me è stato tanto buono. Ehi, così essere scemi, Prima si fa la giustizia, cioè prima bisogna muovere un percorso attraverso il quale si faccia l'appropriazione del male che tu hai fatto. Solo così si fa la pace. Altrimenti non è pace, questo è un condono. Il condono, Noi siamo esperti, Il condono che cos'è? Il condono è dire che non è un errore, un errore. Un abuso edilizio non è più un abuso, perché adesso puoi fare la casa anche sottoterra. Il perdono non è condono. Il condono prende in moto sempre l'aspetto della giustizia. Quindi, se voglio costruire relazioni di pace, io devo fare dei passi prima perché la giustizia venga espletata, esplicitata. Altrimenti, se si dovesse ripetere nuovamente un conflitto, il fuoco arde sotto la brace, invece la brace deve essere totalmente spenta. Ecco perché la giustizia tra fratelli si fa attraverso un percorso che è quello appunto di Giovanni, di Giuseppe, scusate. La pace dunque non è che realmente shalom, la pace resta sempre una pace inadeguata se non è un'istituzione della giustizia divina. Gesù di Nazareth diventa vittima delle milizie romane. Guardate anche questo, di queste milizie romane che erano custodi di che cosa? Della Pax Romana. Nel momento in cui era cessata la guerra, come era cessata però la guerra con i romani? Era cessata perché un potere militare molto forte aveva conquistato tutti, una volta che li aveva conquistati tutti ha detto adesso facciamo la pace. Oh, bello così, facile così, no? Facciamo la pace dopo che ci avete annientato. Vedete, nel momento in cui c'è la Pax Mundi, Gesù resta vittima di un sistema oppressivo. Allora questo diventa un brano sicuramente interessante. Il Nuovo Testamento condivide ampiamente le concezioni antico testamentari della pace, ritenendola questa come ultimo dono di Dio. Prendiamo l'esperienza di Efesini 2,14, quando parla del muro che viene sfondato dalla presenza di Gesù. Per cui nel Nuovo Testamento la pace non si limita a essere puramente spirituale, ma la comunità deve essere quel luogo in cui la pace è concreta, in cui la pace si sviluppa. Non dobbiamo però anche noi essere tanto superficiali da pensare, beh, ma se allora così la pace la raggiungeremo. Perché? Perché la pace è smentita nei fatti nostri. Accendiamo il telegiornale e ce ne accorgiamo. Allora, il fatto che nella storia cristiana, fino ad oggi, si siano svolte guerre, si facciano guerre, alcune volte richiamandosi anche alla Bibbia, non costituisce una prova dell'inefficacia delle concezioni bibliche sulla pace. Al contrario, rivela la nostra incapacità di cristiani di affidarci a quel Dio e al suo dono di pace. Questa è la differenza. Noi non siamo artigiani di pace, come potrebbe dire Papa Francesco. Adesso faccio una cosa, magari mi tirate anche le pietre, per carità, Però penso che in questi giorni in cui abbiamo assistito al magnate che è diventato presidente, mamma mia, presidente degli Stati Uniti, è curioso questo, che se aumenterà il PIL in Europa per la produzione delle armi, anche in Italia diciamo sì, si può raggiungere, a discapito però non del sistema italiano, che non crolli, quando penso che siano 9 anni abbondanti che Papa Francesco parla della, per favore di eliminare tutte le spese militari. Questo sarebbe il modo, secondo questo illuminato nuovo presidente, di raggiungere la pace, aumentando le forniture della guerra. Allora non è che la Bibbia non è attuale, semplicemente che la Bibbia non trova delle risposte adeguate in noi, da scendere veramente nelle piazze. Ma coi chiodi, col martello, regali le macchine a questa gente qua. Va bene, d'accordo. Adesso entriamo in un brano e poi finiamo, Entriamo in dei brani un pochino più simpatici, così vi sollevo anche un pochino di più. Potrei intitolare quest'ultimo percorso con questo titolo, Perché tanta violenza? E però cercherò di darvi anche, è mio compito, cercherò di darvi anche delle risposte più adeguate sulla violenza. Prima di tutto è vero, dentro la Bibbia abbiamo già detto, la Bibbia non è un libro di verità religiose, è un libro che però riflette la vita degli uomini e della loro storia. Dio non è puro spirito, ma è un Dio che si coinvolge corpo e anima nella storia senza paura di avventurarsi. anche in ciò che dissemina sventure. Allora, se nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, noi troviamo tanta violenza, è forse questo il segno che nella preoccupazione di esprimere Dio e la sua alleanza con gli uomini che hanno scritto la Bibbia non mettono in sordina ciò che segna così tanto e profondamente la nostra individualità. Vedete, al posto di distrarre noi lettori nello scritto dalla realtà quotidiana, la scrittura ci mette nella composizione invece di ricondurci con insistenza per cercare Dio non al di fuori della nostra esperienza concreta, che è esperienza di guerra, di violenza, ma nel cuore stesso della vita. Quindi non si tratta di sapere perché la Bibbia è violenta, ma noi dobbiamo chiederci perché resistiamo al suo rinviarci alla violenza che lede la vita. Cioè, quella violenza di cui siamo stati, o almeno possiamo essere vittime, talvolta nostra insaputa, quella che produciamo noi, forse senza rendercene conto, che cosa ci dice di Dio? E Dio che cosa dice a noi di tutta questa violenza? Quindi la Bibbia non si accontenta di essere letta, la Bibbia richiede di essere compresa, e la Bibbia diventa lo specchio anche delle violenze umane. Allora prendiamo il racconto di Giuseppe, che è molto facile. In questo ciclo narrativo noi vediamo che questa famiglia è completamente sballata in totale. C'è una violenza importante, perché un papà ha 12 figli, direi che è abbastanza, ma ne ama uno più di tutti. Ne ami uno più di tutto, crei delle simpatie e delle antipatie. C'è un'ingiustizia. Giuseppe, che si sente un po' portato, fa dei sogni che danno abbastanza fastidio, però. I covoni che si piegano, altri che vanno ad adorare. I fratelli che nutrono odio verso il proprio fratello. Vedete? C'è una situazione di conflittualità più fonda. Potremmo dire così, che tutti questi racconti ci fanno vedere fin dall'inizio che tutti siamo coinvolti nella violenza, come vittime o come autori. Giuseppe inizia irritando, Giacobbe fa allo stesso modo, e allo stesso tempo, ecco, per i fratelli è impossibile nutrire sentimenti di amore per il proprio fratello. Il racconto dunque mostra che la violenza comincia sotto forma larvale, nascosta, appena visibile, si insinua con sguardi, con parole. Ma soprattutto c'è questo: la violenza nasce quando il cuore è ferito. È ferito dall'odio, dalla cupidigia. E allora, se il cuore è malato, le violenze si inaspriscono. E allora la violenza, voi sapete, nei confronti di Giuseppe risulta essere brutale. Ma è brutale anche il padre, che porta questo suo figlio dai fratelli dicendogli così, Genesi 37, vai a vedere come stanno i tuoi fratelli. E come possono stare i tuoi fratelli? In realtà il sostantivo è shalom, vai a vedere se c'è la pace nel cuore dei tuoi fratelli. Ma noi che leggiamo diciamo, ci può essere pace nel cuore di questi fratelli? Sono andato indietro così nella scrittura per farvi vedere questo, che la Bibbia fin dall'inizio, conoscendo la problematica della violenza, della guerra, della mancanza di pace, nei primi testi, che noi chiamiamo i testi primordiali, ci mette le chiavi di accesso per leggere al tema della violenza con le categorie corrette. E allora nasce l'incomprensione, nasce il dramma, e il racconto mostra che non ci si sbarazza della difficoltà scaricando questo peso su altri. Agire così è conseguenza di un accecamento e non fa che accudire il male e la facilità. Cioè, non basta mandare Giuseppe a vedere come stanno i fratelli per calmare le acque. Che cosa deve essere curato? Deve essere curato il cuore, ma attraverso dei rapporti di giustizia che devono essere riabilitati. Per cui un racconto del genere, che cosa ci fa vedere? Fa vedere che siamo tutti coinvolti in questo mondo, un racconto probabilmente anche un pochino stilizzato, ma allo stesso tempo abbiamo altri racconti biblici che sono utili per tale lavoro. Per esempio, la legge del taglione, che cosa ti dice? La legge del taglione mira a contenere la violenza per combattere la vita e permettere la vita in momenti di crisi. Ti ho dato un ceffone? Non te ne do 5, ne prendi anche uno. Ti ho rubato la mucca? Ti prendo una mucca. Ho ucciso te? Hai ucciso un amico della mia famiglia? Io ne uccido uno della tua. Era un tentativo, potremmo dire così, primordiale di permettere la vita senza che ci fosse un'espansione della violenza. Potremmo dire, è già qualche cosa, ma è qualche cosa di difficile. Molto più complesso, allora qui è la Bibbia che riflette, quando invece a compiere il male è Dio stesso. Noi allora possiamo prendere ancora una volta queste prime pagine della scrittura, andando a vedere già i testi della creazione. Quando nel progetto iniziale del creatore gli uomini e le donne sono state create ad immagine e somiglianza di Dio. Però osserviamo anche che questo Dio si sforza di limitare la violenza, di contenerla, di circoscriverla. Guardate anche in che modo. Quando Caino opera la violenza, Dio gli mette un bollo sulla fronte per dire nessuno tocchi Caino. Amalek è condannata allo sterminio per essersi opposto al cammino al passaggio di Israele. Nel libro di Giosuè Dio gli dona una terra a scapito però delle popolazioni che abitavano lì. Per cui la presenza di Dio nei testi biblici si manifesta con la violenza che costringe a ripensare teologicamente questo fatto così difficile e anche così cruciale. Allora vi presento la lettura di alcuni brani, velocissimi, che così poi possiamo finire. Parto però da un brano tratto dalla mitologia, la Grecia antica contro la violenza, con questo testo di Eschilo. Nella trilogia dell'Orestea lui ci racconta questa vicenda familiare molto triste, che alla partenza di Troia, voi sapete, Agamennone sacrifica la propria figlia Ifigenia per poter partire, cioè ammazza sua figlia per poter vincere. Benissimo, Agamennone poi torna a casa e sua moglie Clitemnestra ucciderà suo marito Agamennone per aver ucciso la propria figlia. Il figlio Oreste, tornando a casa, ucciderà la madre perché ha ucciso suo padre. Oreste sarà vessato da delle erinni che perseguitano Oreste per punirlo del matricidio. Vedete che cos'è questa? È la violenza che si espande. Ci sarà allora l'atteggiamento di Atena, che, non volendo più vedere tanta violenza, sostituisce la violenza con la giustizia. In base a questo anche le erinni cambieranno nome, si chiameranno Eumenidi e diventeranno le protettrici di Atena. Questo che cosa era per dirvi? Semplicemente questo, che anche la mitologia greca, Eschilo 500 a.C., vedete, è molto vicina ai nostri testi, tipo la saga di Giuseppe. Allora noi abbiamo la comparsa della violenza sulla terra. E sapete come si dice violenza in ebraico? Adesso vi sconvolgo sul serio, Hamas. Sapevo che questo vi piaceva più di tutta la mia giornata di oggi, però in realtà si dovrebbe dire così, Hamas, perché è un ghe molto duro. Mentre state tranquilli che il Hamas arabo ha un altro senso, Hamas arabo arriva più o meno dalla stessa corrente, però significa zelo. Hamas in ebraico invece significa violenza. La prima volta che il narratore della Genesi ricorre alla parola violenza è per registrare la condizione della terra poco prima del diluvio. Curioso questo, Questa violenza è posta in contrasto con la giustizia di Noè. Il testo dice così, Genesi 6:9. Ora la terra era distrutta a cospetto di Dio e piena di violenza. Questo è il punto di vista del personaggio divino. La terra era distrutta e piena di violenza. Quindi Dio mette al corrente Noè di una situazione. Bisogna distruggere tutto. Questa è la pedagogia divina. Si distrugge la violenza come? Voilà, vi piace? No, dovete dirmi di no, tranquilli. Si distrugge la violenza con la violenza, ma vi dicevo che qui noi abbiamo tutte le chiavi di lettura. Ma Dio distrugge la violenza con la violenza, Genesi 6, l'unico che scamperà questo cataclisma è il giusto, che beneficerà di una nuova creazione. Ma come? Questa terra è violenta? Signore, voi dovete dirmi altro che, perché quando Abele viene ucciso, Dio interviene dicendo: il sangue succhiato dalla terra dove è stato ucciso tuo fratello grida a me. Quando è che la terra si è intrisa di violenza? Quando è stato commesso il primo omicidio dell'umanità. E attenzione, per estensione, ogni omicidio è sempre un fratricidio. Posso? Perché riguardo a questo episodio di Caino e Abele, io sono sempre stata colpita dall'inizio, cioè mi sono sempre chiesta, ma perché Caino ha ucciso Abele? È profetica, signora. E perché c'è scritto, appunto, c'è scritto infatti, che ha gradito i doni di Abele e non quelli di Caino. Esatto. Con precisione, no? Sì. E allora, cioè... anche lei si sarebbe offesa un attimo. Ho sempre riflettuto su questo. Lei si sarebbe messa a compannella. Perché? Perché ha gradito i doni di uno e non dell'altro. Bravissima, lei si sarebbe messa a compannella nell'associazione Non mettete le mani su Caino. No, io mi sarei messa. Però è vero che questo brano può creare, diciamo un po' così, delle cose, no? Però in realtà va letto, nel senso che guardi come è formulato il brano di Caino e Abele. Dio non dice una parola ad Abele, il giusto. L'unico con cui parla è con Caino il violento. Questo è l'atteggiamento di Dio. Dio parla a Caino due volte. Ad Abele non parla mai. Nel testo italiano la traduzione... No, non mi faranno mai vescovo, perché così sto dicendo. La traduzione non è proprio felicissima, perché non significa che Dio non gradì. Semplicemente il testo ha un'altra traduzione, l'ebraico dice: Dio non guardò all'offerta di Caino. Non guardare non significa non gradire, significa non vedere. Questo però che cosa ha generato nel cuore di Caino? Ha creato un atteggiamento di sconforto, di fiducia, di abbandono e di istinto. E allora, era quello che sarei andato a dire adesso, ecco che questa terra si intrise di sangue perché? Perché Dio ammonisce Caino e dice: Ciccio, stai tranquillo, va tutto bene, però non far entrare il male che ha covacciato sulla tua porta dentro di te, perché su di te è il suo istinto, ma tu puoi domarlo. Dio non aveva dato questo comando anche a chi? All'uomo e alla donna. Ma vedete che questo è successo quando? Quando nel cuore dell'uomo e della donna nasce questa conflittualità seria con Dio, in ordine alla cupidigia, al desiderio di prendere questa mela che appariva tanto bella e tanto buona. Ecco allora che la scrittura ti sta facendo vedere che l'origine della violenza nasce da un cuore che odia, da un cuore geloso, da un cuore che non si accorge di ciò che il Signore sta facendo, rompendo questa comunione. Allora la terra si riempie di sangue. Faccio un'altra osservazione, ma sì, se siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, perché c'è questo germe cattivo? Siamo stati fatti in immagine e somiglianza di Dio e siamo proprio liberi per questo. E siamo liberi anche di non scegliere di aderire a questa immagine di somiglianza, ascoltando altre voci, non ascoltando la voce di questo Dio che ti aveva detto: uè, padrone di tutto, solo una cosa, dei due alberi non dovete toccare, come lo si dice ai bambini: se vuoi che ti tocchi una cosa, diglielo pure, tocca pure, non devi toccare quello, bam, subito, no? Vedete che il processo è quello, per cui la terra è intrisa di sangue, ma Dio ha parlato solo sempre con Caino, mai con Abele. L'unica volta che Abele parla è da morto, ma parla al sangue. Ecco, ecco il termine, evel, vacuità, inconsistenza, vapore, debolezza. Però vedete che Dio ascolta il sangue delle vittime. Per cui questa parola Hamas, della violenza, no? Che c'è nella scrittura, ci dice che attraverso il diluvio Dio che cosa farà? Dio farà giustizia dell'uomo giusto, cancellando tutto. Però lo scrittore della Bibbia ci mette in mano anche un aspetto interessante, dicendo gli uomini hanno smarrito la via, no? Genesi 6, ma quale via? La via di Dio, la via di Noè o altra? Noi sappiamo che anche, guardate, l'orientamento alimentare degli uomini dell'origine era molto diverso. Gli uomini hanno avuto il comando di dominare sul creato, ma quel dominio non è il nostro Love Sure Day, no? Che si caratterizza sempre a luglio, abbiamo già consumato le risorse del pianeta dell'anno. Il dominio è custodia. Ecco perché abbiamo un regime alimentare, prima del diluvio universale, che l'uomo è vegetariano. Perché? Perché gli animali non sono tuoi avversari, non sono come te, ma tu non ti cibi degli animali. Per creare un sistema di mitezza, di giustizia, agli uomini vengono dati i cereali, agli animali vengono date le erbe. Vedete, per creare un clima di perfetta armonia e comunione, di dolcezza, dove l'uomo non deve uccidere l'animale, per che cosa? Per alimentarsi. Questo è il clima che deve essere. Vedete, questa è la chiave di lettura. E poi allora, ecco che questo regime alimentare suggerisce la via della dolcezza. Ma il problema emerge quando Dio addirittura si pente del male che voleva fare all'umanità, distruggendo con il diluvio universale. Ed ecco allora quella che noi chiamiamo l'alleanza unilaterale di Dio con l'umanità, quando noi lo vediamo nel segno dell'arco di baleno. In realtà l'arco che cos'è? L'arco è lo strumento di guerra. Vedete che Dio cambia i suoi strumenti di guerra e di violenza, dicendo: io non annienterò mai più l'uomo. E addirittura ribalta il suo strumento da contro gli uomini a come quell'arco sul quale gli uomini potranno camminare sempre, per dire: la nostra vita non sarà mai più distrutta dall'azione di Dio. Quindi i testi, che sono testi però molto recenti della scrittura, questi mitologici, ci fanno vedere che l'obiettivo di Dio non è agire su di noi attraverso la violenza, ma al contrario, agire verso di noi nel regime della mitezza, nel regime della dolcezza. Vedete che c'è un cambiamento abissale. L'alleanza unilaterale, cioè Dio non chiede neanche a noi se siamo contenti e vogliamo partecipare a questa alleanza Berit. L'alleanza bilaterale sarà soltanto sul Sinai, quando Dio donerà le 10 parole. Allora, notiamo però che ci sono anche delle situazioni straordinarie precedentemente già di violenza. Dopo il peccato originale, l'uomo è attratto, scusate, la donna è attratta dall'uomo, vuole fare dell'uomo un suo possesso, ma è l'uomo che l'allontana dal suo istinto. L'uomo può fare violenza sulla donna. Mamma mia, che bel clima! Anche Eva, quando partorisce questo bambino, dice: ho partorito un bambino, e lo chiama suo, tirandolo fuori dal contesto familiare. Caino non può che crescere male, ragazzi, perché vittima di questo gioco di violenza, dove tra genitori c'è una violenza del prendere, anche lui si prenderà la vita del proprio fratello. Pensate allora a Lamech, quando ucciderà un uomo e un bambino e cercherà di proteggersi con una minaccia ancora più forte. Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech sarà vendicato 77 volte. Vedete? La violenza dilaga. Allora, di fronte a questo fallimento, ecco che la distruzione della violenza e dei violenti avviene per mezzo del diluvio. Ma questo diluvio lascia intravedere che Dio si è cacciato in un vicolo cieco. Infatti, dice: io non posso fare così. La violenza non può essere la risposta con gli uomini. Allora, l'arco viene proprio a dirci questo, che il modo migliore non è quello di distruggere attraverso la forza. La soluzione di Dio allora è l'ingresso nel regime della legge che prenda atto della realtà. La violenza abita nel cuore dell'uomo, a che giova negarla? Ecco, allora mettiamo delle leggi, la Torah. La Torah che cosa fa? La Torah dovrebbe fare in modo che venga lasciato uno spazio sicuramente alla violenza, ma questo spazio alla violenza è pedagogico, cioè Dio offre agli uomini una sorta di laboratorio, ecco le leggi, in cui è possibile sperimentare la violenza per poterne vedere i suoi effetti distorsivi su di noi. Se voi prendete il riferimento allora al Decalogo, vedete che questa legge è molto strana. Perché gli ultimi comandi che cosa dicono? Non desiderare la donna d'altri, non desiderare le cose degli altri. Vedete, viene portato al tema del desiderio, della cupidigia, eccolo qua, della gelosia. Ah, mamma mia Andrea, però sai che c'hai un bello orologio? Adesso ti agguanto nel parcheggio, ti do una coltellata nella schiena e me lo prendo. Vedete che è strana una legge che cura il cuore. Le nostre leggi non sono così, no? Le nostre leggi comandano. La legge mosaica, ecco perché la Torah è istruzione, la legge educa, la legge deve educare il cuore, ma noi invece sappiamo che le leggi e i precetti non sono così, sono ostativi, o così o così. Questo è il percorso. E allora la legge, la strana sapienza divina al momento di legiferare, mira subito al cuore, come se sapesse che di fronte a un cuore pieno di cupidigia, di lotta, di rabbia, ogni legge resterà sempre senza effetto. Basta una legge per cambiare il cuore? No, non basta una legge per cambiare il cuore. E allora, ecco, e concludo, arriviamo ad un altro aspetto. Il taglione, la legge del taglione, aveva autorizzato che l'omicida fosse messo a morte. Poi però si potevano creare anche dei rapporti strani. Allora la legge è posta per limitare ciò che d'altro canto accetta. Questo è il paradosso della legge, questo ce lo dice Beauchamp. La legge limita ciò che noi accettiamo. Non uccidere. Non uccidere è una gran legge. Però vedete, non eliminiamo la possibilità di uccidere. Ti stiamo dicendo che non devi uccidere, però tu volendo puoi uccidere. Per cui dove si deve agire necessariamente? Si deve agire nel cuore. Nessuna legge però può imporre qualche cosa al nostro cuore. La legge non viene a legittimare la violenza, ma viene anche ad accordarle un diritto di cittadinanza nell'umanità. Secondo Beauchamp, lo scopo allora della legge è di guadagnare tempo. Lo scopo della legge è guadagnare tempo verso la giustizia. Trovare cioè altre soluzioni, inventare altri modi più umani di vivere con se stessi e di coesistere insieme. E allora vediamo dove la scrittura trova queste risorse oltre la legge. Lo sappiamo, l'abbiamo visto in Mosè, che cerca prima di tutto, no, i giudici che lo aiutino a regolare la legge. Ma noi abbiamo degli esempi interessanti. Prendiamo Davide. Beh, Davide quando va a prendere Bezzabea, non elegante, d'accordo? Non eccezionale. Lo spezziamo anche una piccola lancia per Davide, Caspita, però ti trovi anche una signora che fa il bagno davanti al tuo terrazzo, è anche difficile, è la cosa. Però vedete che lui cerca con modi torbidi di ingannare il marito, Uria, e poi a un certo punto il suo miglior generale lo manda a combattere perché venga ucciso. Come per dire, almeno così non sarà più adulterio. Maledetto, Davide? Arriva Nathan. Nathan conosceva la violenza di Davide. Andargli a parlare non era poi così facile, a dire: ehi, Cicin, cosa fai? utilizza questa parabola molto bella. Ah, sai che è arrivato un signore ricco, gli è venuto un ospite e voleva dargli da mangiare, aveva solo tantissime pecore e agnellini, ma non ha voluto prendere di suoi, è andato a prendere da un poveraccio che abitava di lì, trattava la pecorella come il suo fuffi, era la sua amichetta, gliel'ha presa e gliel'ha uccisa. Davide, che ha il cuore giusto, dice: oi, portamelo qua che lo aggiusto io. Nathan, probabilmente uscendo dalla porta, gli avrà detto: quello lì sei tu, ed è partito. Che cosa ha fatto Davide? Nathan però ha fatto un'azione straordinaria, è andato oltre la legge. Nathan ha toccato che cosa? Il cuore. Ha toccato il cuore. E Davide, che è uomo giusto, se n'è accorto. E questa è la grandezza di Davide. Perché se è comune di tutti sbagliare, è di pochi chiedere scusa. E Davide chiede perdono. Questa è la grandezza di Davide. Potremmo prendere l'esempio anche del figlio di Davide, di Salomone, quando si trova davanti alle due prostitute che nella notte una schiaccia un bambino dormendo e reclamano il figlio. E Salomone dà una decisione interessantissima. Nessun problema, tutte e due avrete una parte di figlio, basta segarlo a metà. Così tu avrai un pezzo e l'altra ne avrà un pezzettino. Esce fuori la vera mamma che dice: no, per carità, il mio bimbo piuttosto lo lascio a lei. Ma vedete, questi esempi illustrano quanto la violenza sia segnata dalla cupidigia e dalla menzogna, ma come anche la legge resti impotente se non è accompagnata da una sapienza, quella di Nathan e quella di Salomone, che sia in grado di disattivare le trappole della cupidigia. Allora concludo il mio discorso. Come facciamo ad andare oltre la violenza? Primo step: violenza contro violenza. Dio ci ha già detto, Genesi 9, mai più, mai più così. Il mio arco si ribalta e il mio arco diventa invece un ponte tra noi, tra il mio mondo e il vostro mondo. Secondo step, la legge. Vediamo una valanga di leggi che sono le leggi mosaiche, voi, yes man, le obbedite e ci accorgiamo che invece non va tanto così, cioè, oddio, diamo un posto all'ingiustizia sotto la coltre più grossa della giustizia, ma sappiamo benissimo che la giustizia non può colmare tutto. La giustizia semplicemente rende meno evidente un aspetto che è pericoloso. I sapienziali ci dicono: attenzione, noi dobbiamo disattivare le trappole della cupidigia, proprio quella che si nasconde sotto le pieghe, e ritorniamo al famoso serpente. Il serpente che cosa fa? Il serpente striscia, il serpente non lo vedi, il serpente va sotto le foglie. Ecco perché ti inganna, ecco perché ti prende. Vi prendo un esempio, secondo me, straordinario dagli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, che dice così: se tu vuoi sapere dove ti porta un ragionamento nel discernimento della tua vita, vai a vedere, tu ne vedi l'inizio, vai a vedere la coda dov'è, perché è dalla coda che noi riconosciamo il serpente. Vai a vedere velocemente dove ti porterebbe questa consolazione o questa desolazione. Vedete? Andiamo di nuovo a toccare il nostro cuore. Allora, cosa fare per andare oltre la giustizia? Benissimo, possiamo ritornare, e concludiamo così, con l'esemplificazione di Giuseppe. Giuseppe, che lavoro fa fare ai suoi fratelli? Guardate, anche Giuseppe non era farina per fare le ostie, eh? Anche Giuseppe ha provocato i suoi fratelli, per cui non era semplicemente il giusto che ha subito violenza, anche lui ha messo del suo. Il rapporto di relazionalità tra fratelli va ricostruito. E allora, quando loro si presentano a lui, lui fa entrare in scena tutti quegli attori che in un modo o in un altro erano coinvolti in un sistema di male. I fratelli, il padre, ma che guarda caso, aveva mandato i fratelli a accattonare un pochino di grano in Egitto, ma si era tenuto di nuovo un bambino piccolo, Beniamino, a casa, che l'aveva tenuto lì come un nuovo Giuseppe. Vedete che allora c'è una maturazione interna ai personaggi, dove i fratelli riconoscono la colpa verso Giuseppe, il padre viene risuscitato in questo suo dolore per perdere nuovamente Beniamino, ma attraverso l'ordine imperante di Giuseppe deve liberarsene. Liberandosene di questo amore possessivo nei confronti di Giuseppe, di Beniamino, permette ai fratelli di essere realmente tutti fratelli tra di loro. E solamente quando accade una cosa di questo tipo, ecco che Giuseppe si può rivelare. E il perdono può essere donato. Perché? Perché si è rifatta che cosa? Si è rifatta la giustizia tra i componenti. La pace allora è possibile solamente quando la giustizia viene svolta. Allora noi non dobbiamo essere sbrigativi nei rapporti di violenza che vogliamo risolvere, pensando che si risolvano facilmente. Si possono risolvere solamente come? Educando il cuore. Questa è la scrittura. Allora, ben oltre la giustizia, la sapienza trionfa sulla violenza e, guardate, anche sulle sue radici più nascoste. Questo è finito. Nel Primo Testamento ci viene riportato in modo esemplare nel quarto cantico del servo di Isaia, nella sua seconda parte, da Isaia 52 a Isaia 53, in questo poema che penso conosciate quasi tutti a memoria. Vedete che contro la violenza che si scatena su di lui, ingiustamente, il servo sceglie di resistere facendo non violenza, rifiutando la menzogna. Il servo tace, come se sapesse che un'accusa sarebbe menzognera per il fatto che incolpevorebbe anche gli aggressori. Questa è la vera sapienza, perché fa vedere che chi ti aggredisce, in fondo, è la prima vittima. La persona ingiusta, il violento, capiamoci bene, è la prima vittima di che cosa? Del suo cuore ostinato, del suo cuore odioso, del suo cuore, potremmo dire così, pieno di cupidigia. E allora l'atteggiamento del servo è di non dire niente. Se egli soffre è perché prende il suo male su di sé, come rivela proprio Dio, che interviene in suo favore, e addirittura il silenzio del servo ha il valore di un'azione profetica, la cui chiave interpretativa viene data dal testo stesso. Se egli tace è per manifestare l'orrore del peccato. Conclusione. Nel Primo Testamento, allora, possiamo dire così, si trovano alcune tracce per tentare di porre in scacco il tema della violenza, non senza la giustizia, ma anche oltre questa, attraverso cioè una giustizia che sia più giusta e più sapiente. Ciò su cui si cerca di agire non è la violenza stessa, è piuttosto questa regione del cuore umano che è suscettibile di cedere al fascino menzognero del serpente, la cui logica è logica di violenza e di morte. E allora possiamo veramente imparare dall'alleanza con Noè, dove Dio depone le armi, e guardate che bello, e corre il rischio di confidare nell'essere umano. Dio depone le armi confidando nell'essere umano. Noi abbiamo il potere di fermare il male che facciamo e di rinunciare alla violenza, investendo le nostre forze, cercando strade di pace con ogni essere di buona volontà. Questo potrebbe essere un modo per cercare luce e speranza nelle pagine della scrittura. Certo. Basta. Grazie.